Cara madre, vi scrivo questa lettera che è l'ultima lettera che vi scrivo. Ve ne ho scritte tante di lettere, tante. Una al giorno per tanti anni, per più di 50 anni. Voi sempre mi dicevate scrivi, scrivi, io sempre avevo scritto una lettera al giorno per più di 50 anni. Solamente una volta non vi ho scritto, che difatti voi mi diceste, come mai che non hai scritto, eh? Di tante lettere che mi hai scritto, perché questa non me l'hai scritta? Che io vi dissi che non potevo, per via della disgrazia. C'era stata la disgrazia, non potevo salire a perdere tempo con le parole scritte. Che però voi mi diceste... Prima o poi me la scriverai, sta lettera, me la recuperi. Mica che mo adesso mi lasci senza una lettera nel mentre che tante lettere che mi hai scritto. Che io vi dissi che sì, che avrei scritto la lettera, ma non subito. Perché, cara madre, per scrivere certe cose uno o subito le scrive o gli ci vuole una vita intera per trovare le parole giuste per dire. E io adesso, cara madre, dopo tanti anni, dopo più di 50 anni, dopo tutta un'intera vita, io sta lettera ve l'ho scritta. Ma però fate conto che non è la lettera di oggi quella che scriverei oggi, bensì quella che vi recupero di 50 anni fa. E per la precisione, la lettera del 17 di marzo del 1949, il giorno che la lettera non ve la scrissi. Ma per incominciarvela dall'inizio, la storia ve la devo incominciare dal giorno prima, dalla sera prima, dalle ore 22, dalle 10 di sera del 16 marzo 1949. Quella, cara madre, è la prima volta che sono entrato a lavorare in fabbrica, appena assunto in fabbrica. Beh, cara madre, appena assunto in fabbrica, entro in fabbrica, marco, timbro, bollo e cartellino, me ne vado in fabbrica. Me ne vado allo spogliatoio, che è l'ultimo preciso punto che dal di dentro della fabbrica si vede il di fuori della fabbrica. Ma faccio la finestra e mi guardo il di fuori della fabbrica, l'autobus, i camion, la gente che camminano per la strada e l'edicola tabaccheria che sta proprio davanti di rimpetto alla fabbrica. Poi vado a lavorare in fabbrica. Me ne vado al posto dove sono stato destinato ad andare, all'alto forno, lavorarci come scovazzino, manovale semplice, scopare il carbone. Arrivato all'alto forno incontro Fausto. Fausto è il mio capoforno, capoturno. Fausto conosce la fabbrica a memoria. Fausto mi imparerà il mestiere. Fausto, la prima cosa che mi dice è che la fabbrica c'ha un centro. Il centro è l'alto forno. Tutto lo stabilimento lavora affinché funziona bene l'alto forno. E quando l'alto forno funziona bene, produce pure la corrente elettrica che manda avanti tutta la fabbrica. Il centro della fabbrica è l'alto forno. Noi stiamo al centro della fabbrica. Questa è la prima cosa che mi dice Fausto. Ma la seconda cosa che mi dice subito subito è che sicuramente si sono sbagliati a lavorare uno come te. Mi dice, eh? Dice, quelli come te li licenziano, quelli che non hanno figli, quelli che non hanno moglie, quelli che non sono sposati, che non hanno famiglia, sono i primi che rimandano a casa. Mi dice Fausto che mo siamo nel mese di marzo, ma da ottobre che sono passati pochi mesi, manco un anno, ne hanno licenziati 300 e nei prossimi 3, 4, 5 anni ne mandano a casa 3.000. Mi dice Fausto che da mo che l'hanno licenziati quelli come te. Dice Fausto che ormai gli unici che rimangono a lavorare in fabbrica sono quelli che ci hanno avuto la disgrazia, no? Sai, quelli che hanno perso un dito, un occhio, un'orecchia per la fabbrica, no? Che hanno dato qualcosa alla fabbrica, la fabbrica mica li può cacciare via, eh? Difatti, cara madre, Fausto è mancante d'una gamba, ma no che è zoppo, eh? Proprio gli manca tutta la gamba, eh? C'ha la chiappa, sotto la chiappa non comincia la gamba, vuol dire che è mancante dell'intera gamba. Fausto dice che con questa disgrazia, che è una disgrazia grossa, mo non lo licenzia più nessuno dalla fabbrica, manco Gesù Cristo e la Madonna. E poi dice Fausto che ormai lui in fabbrica ci lavora da generazioni, che in fabbrica ci lavorava pure suo padre e perfino suo nonno, che, cara madre, il padre e il nonno di Fausto si chiamavano Fausto pure loro. Sì, cara madre. Come dite voi, no? Che il morto porta il vivo, no? E che quando muore qualcuno dentro una casa, nel giro di poco tempo, subito deve nascere qualche un altro per riportare a pari i conti tra la vita e la morte. Il morto porta il vivo, dite voi, cara madre, ma il vivo deve portare avanti la vita del morto e portarne anche il nome. Ed è per questo, cara madre, che Fausto si chiama Fausto come suo padre e come suo nonno, per portare avanti la vita del morto. Cara madre, Fausto racconta che ai tempi di suo nonno la fabbrica era tutta diversa, tutta differente. Dice che ai tempi di suo nonno il padrone della fabbrica era uno che di nome faceva Paride Pietrasanta. Dice che sto Paride Pietrasanta era uno di questi vecchi padroni, no? Fatti all'antica, di quelli che si affacciano alla finestra e vorrebbero vedere che tutto quello che sta sotto è tutta roba loro, no? Poter dire mio, mio, mio, mio, mio, mio, tutta quanta roba mia. Beh, oh, Pietrasanta si affacciava a sta finestra e vedeva una pianura infinita, sterminata, ma di tutto sto sterminio di terra non era suo manco un sasso, manco una briccola, manco un ciuffo d'erba, capito? Era tutta proprietà, tutta quanta possidenza di un aristocratico nobiliare, un vecchio che la terra era sua e non la voleva vendere. Beh, quello lì, Pietrasanta ci aveva provato a comprarsela, ma questo era tignoso, rompiscatole, e la terra non gliela voleva dare. Beh, cara madre, un bel giorno, in fabbrica, ai piani alti, lì da Pietrasanta, ci andarono a parlare un gruppo di donne, femmine, operaie della fabbrica, che a capo di queste donne ci stava una donna che di nome si chiamava Assunta. Che mo su sta Assunta bisognerebbe scrivere una lettera solamente su di lei per quanto era bella sta donna, no? Famosa, una bellezza straordinaria, una Madonna, il volto di pietra scolpito. Beh, insomma, comunque, questa Assunta, insieme alle altre donne della fabbrica, se ne vanno a parlare con Pietrasanta. E quando Assunta arriva dal padrone, gli dice: noi siamo venuti a chiedere una cosa da niente. una stupidaggine, una cosa che voi che siete il padrone la potete fare senza nessun problema. La cosa sarebbe questa, gli dice Assunta. Mo stiamo del mese di autunno, ma presto arriveranno i giorni 1 novembre e 2 novembre. 1 novembre, giorno dei santi, 2 novembre, giorno dei morti. Voi qui in fabbrica, disse Assunta, Pietra Santa, qui in fabbrica ci fate sempre festeggiare il 1 novembre, il giorno dei santi, mentre che i morti non si festeggiano mai. Beh, disse Assunta, noi dei santi da pregarmi che ce l'abbiamo, ma dei morti da piangerci al cimitero, quelli sì che ce l'abbiamo per davvero. Noi vorremmo avere il giorno libero per andare al Camposanto. Facciamo una cosa, gli disse Assunta a Pietrasanta, un patto. Quest'anno, il 1 novembre, giorno dei santi, pure se sarebbe festa, noi veniamo a lavorare lo stesso. Così che il 2 novembre, anche se sarebbe lavorativo, noi abbiamo lavorato il giorno prima, e facciamo che il giorno appresso, il 2 novembre, ce lo date libero e possiamo andare al cimitero. E non scambia, voi non vi cambia mica niente. Cara madre, quello lì, Pietrasanta, era uno che ci credeva. Urla, strilla, bestemmia. Gli fa, dice, ma voi siete anarchiche, blasfeme, ma atee. Quando mai si è sentito, quando mai si è inteso che si festeggia il giorno dei morti, gli disse. È il giorno dei santi che si festeggia. Il giorno dei santi state a casa, andate in giro, mangiate, bevete dai vivi, dai morti, quello che vi pare a voi. Ma il giorno dei morti, 2 novembre, guai a voi se non venite a lavorare in fabbrica, io vi licenzio tutte quante. Cara madre, quell'anno lì, di quella volta là, il giorno 1 novembre, giorno dei santi, tutte le donne andarono in fabbrica, volevano entrare in fabbrica a lavorare. Ma lo sai com'è? Il 1 novembre è festività, i cancelli non si aprirono, non suonarono le sirene, nessuno entrò in fabbrica. Il giorno 2 novembre invece si aprirono i cancelli, si spalancarono, suonarono le sirene, gli operai entrarono in fabbrica, ma quando Paride, Pietrasanta, fece il giro dei reparti, vide che attaccati alle macchine a lavorare ci stavano solamente uomini, maschi operai della fabbrica. Le donne non ce n'era manco una. Tutte quante le donne, le femmine, stavano tutte quante al cimitero, al Camposanto, insieme a questa Assunta, a piangere, a pregare per i morti loro. Beh, poi cara madre alla fine arrivò il giorno 3 novembre, no? Quella è una legge del calendario, se vi è il primo per due, se vi è il due per tre, il tre, il quattro, il cinque, sono i numeri, no? I giorni sono quelli là. Il 3 novembre, tranne che non sia di domenica, si va a lavorare. Difatti, cara madre, quell'anno lì, quella volta là, il 3 novembre, mica era domenica. Difatti, tutti quanti, uomini, donne, maschi e femmine, operaie, andarono tutti quanti in fabbrica per entrare. Ma quello lì, pari di Pietrasanta, si era offeso per questo sgarbo che gli avevano fatto le donne. Così aveva deciso che gli uomini entravano tutti, ma le donne le licenziava dalla prima all'ultima. Pietrasanta si fece trovare di rimpetto alla fabbrica con una lista di 150 nomi, i 150 nomi delle 150 donne che lavoravano in fabbrica. Le licenziava tutte, ma le avrebbe riammesse a lavorare una alla volta. La prima della lista entrava oggi, la seconda entrava domani, le prime 10 tra 10 giorni, le prime 100 tra 100 giorni, l'ultima, la 150esima della lista, entrava dopo 150 giorni di filato. E cara madre, l'ultima di questa lista era proprio questa Assunta che vi dicevo, questa bella, la Madonna, il volto di pietra scolpito. Cara madre, alla fine passarono i 150 giorni e dopo 150 giorni Assunta tornò a lavorare in fabbrica, ma quella era rimasta 150 giorni senza lavorare, che vuol dire 150 giorni senza percepire manco una lira, che era uno dei stipendio, che un altro po' Assunta moriva di fame, poi dai morti suoi che ci credeva tanto l'andava a trovare di persona, capito? Passarono 150 giorni e dopo 150 giorni Assunta tornò in fabbrica. Si trovò pari di Pietrasanta, di rimpetto ai cancelli, con sta lista di 150 nomi, 149 rocette, l'ultimo, il nome suo di Assunta, alla fine, Vergine. Lui fece l'ultimo segno, buttò la lista e Assunta entrò dentro la fabbrica. Ma quando entrò, non timbrò, non marcò, non bollò il cartellino. Che quello, Pietrasanta gli andò dietro e disse, Assunta, se tu non timbri il cartellino, puoi pure lavorare, ma è come se non sei entrata, io non ti pago il giorno di lavoro. E beh, disse Assunta, voi che siete il padrone, vi siete preso sta libertà da non pagarmi per 150 giorni. Io che sono la serva, la schiava, l'operaia della fabbrica, il 151esimo entro, ma lavoro gratis alla faccia vostra. Voi dite, una donna che aveva un orgoglio suo personale, no? Tant'è vero che quello lì, Pietrasanta, gli andò dietro e gli disse, senti, io non 150 giorni, ma 150.000 giorni di lavoro ti pago. Se tu in contracambio mi fai un cavolo di piacere, gli disse. Io sono una fisima, disse Pietrasanta, una fissazione mia. Io mi voglio affacciare alla finestra di casa mia e vedere che tutto quello che sta sotto è tutta roba mia. Poter dire mio, tutta quanta roba mia. Però mi affaccio e vedo una pianura enorme, non è mio manco un sasso. È tutta roba d'un aristocratico nobiliare, un vecchio pidocchioso che non me la vuole vendere. Tu sei bella, ti disse Pietrasanta Assunta. Sei una Madonna, il volto di pietra scolpito. Se tu vai da sto vecchio, te lo sposi, poi il vecchio quando muore la terra passa a te e tu la vendi a me. No, disse Assunta, io il vecchio non me lo sposo. È vecchio, fa schifo, puzza, non me lo sposo. Sposatelo, diceva Pietrasanta, tanti vecchi sono vecchi e devono morire, se non muore lui lo famo morire noi, sposatelo. Cara madre, alla fine quello che fu, quello che non fu, sto vecchio alla fine Assunta se lo sposò. E c'è da dire che non passarono manco 2 anni e il vecchio morì. Mo sarà che doveva morire di suo naturale, sarà che dettero una mano a madre natura e lo fecero morire prima. Quello che è vero è che questo qua manco 2 anni erano passati e il vecchio finì sottoterra. Ma mo la terra era finita tutta quanta nelle mani di Assunta, di eredità. E Assunta la prese e la vendette a pari di Pietrasanta. E finalmente il padrone della fabbrica, pari di Pietrasanta, si poteva affacciare mo alla finestra e dire mio, tutta quanta roba mia, i sassi, la polvere, pure i cani che ci pisciano sopra, tutta roba sua, capito? E pure Assunta, cara madre, pure Assunta, mo che si era venduta la terra, che gli era morto questo signore, questo aristocratico nobiliare, pure Assunta, mo era diventata ricca. Pure Assunta, se avrebbe voluto adesso, poteva tirare fuori i soldi che c'aveva in saccoccia e comprarsi la terra. Se poteva comprare un'isola in mezzo al mare, se poteva comprare la Germania con tutte le fabbriche e l'operaio dentro. Ma cara madre, l'operaio sono fatti male. Chi riconosce l'operaio lo sa, che l'operaio è uno che urla, strilla, bestemmia contro la fabbrica. Dice che la fabbrica è una galera, ma poi quando prendi l'operaio e lo porti via dalla fabbrica, l'operaio senza la fabbrica sua non riesce a vivere. Capito? Come si dice, come le bestie con la catena corta, no? Che non si riescono ad allontanare. Capito? E così è Assunta che quei soldi che c'aveva in tasca, mo si poteva comprare un'isola Hawaii in mezzo al mare, invece si andò a comprare un'edicola da baccheria proprio di rimpetto alla fabbrica, che la fabbrica sua tanto odiata la vedeva tutti i giorni, giorno, notte, mattina e sera. Che poi c'è da dire che all'inizio Assunta era convinta che avere l'edicola da baccheria di rimpetto alla fabbrica sarebbe diventata ricca, no? Dice, sai, tutti gli operai che entrano e escono, tutti devono passare qua. Ma cara madre, in fabbrica se ci sono 2 cose vietate, so fumare e leggere il giornale, lei c'aveva l'edicola da baccheria. Però alla fine, insomma, diciamo che lei ci messe un primo, un secondo, un caffè, una mazza caffè, una pagnottella, alla fine gli operai là dentro ci andavano. Anche perché poi c'è stava lei, che era bella, una madonna, il volto di pietra scolpito. Gli operai avrebbero pagato il biglietto come al cinematografo, solamente per vederla, capito? Stare lì a fare il caffè, a vendere sigarette. Cara madre, ma però quando che gli operai staccavano il turno, Assunta, pure lei usciva dall'edicola da baccheria e si metteva davanti ai cancelli a guardarsi sto operai. A quel tempo gli operai mica erano come quelli che vedevo in televisione oggi, sa? Erano giganti, alti 50 metri erano gli operai a quel tempo. Erano fatti de ferro, d'acciaio, de ghisa, capito? Stritolavano i marciapiedi quando camminavano per le strade, capito? E lei si rimetteva a guardare questi operai, sta bellezza, sti giganti, sti colossi, che però quando questi qua si sentivano guardare da sta bellezza diventavano piccoli come sorci, strisciavano come le serpi. E lei se li sceglieva, se li capava, come le pere sul banco da frutta al mercato, no? Questo sì, questo no, questo mi piace, questo non mi garba, questo è ammaccato. Vabbè, questo è ammaccato l'operaio, insomma, però per dire, no? Si trovava quello che gli garbava di più, che gli piaceva di più. E quando l'aveva trovato, Assunta, a questo operaio gli faceva un sorriso. E questo non ci capiva più niente, gli andava appresso. Assunta si prendeva l'operaio, se lo portava dentro all'edicola da baccheria, chiudeva la sera cinesca e facevano l'amore. Oh, cara madre, ma storia d'amore tra Assunta e l'operai, che duravano giorni, settimane, mesi, qualcuno più di un anno. E c'è da dire che però la gente dicono che quando Assunta non ne poteva più di questa storia d'amore con quell'operaio, Assunta all'operaio lo faceva morire. E qualcuno racconta che Assunta poi il cadavere morto dell'operaio lo buttava in un pozzo, che difatti, per giustizia e verità, devo dire che dietro a questa edicola tabaccheria ci sta ancora oggi in pozzo, che se tu dici ai ragazzini bevi l'acqua del pozzo, se la bevi ti do 1.000 lire, per dire, 1 milione, 1 miliardo, non trovi un ragazzino che è uno che la beve l'acqua del pozzo, eh? Tutti ti dicono là sotto ci sei morti, e anche se sono morti antichi a noi ci fanno schifo lo stesso. Mo che li buttava nel pozzo o meno, questo nessuno lo può dire, no? Però che gli operai scomparivano, questo è sicuro, tutti lo testimoniano, capito? Direte voi, cara madre, ma perché Assunta lo faceva morire a sto poveraccio che era stato con lei, Per non far sapere che mo lei, che era una signora emancipata, proprietaria di edicola tabaccheria, per non far sapere che ancora faceva l'amore col proletario, col poveraccio, col operaio? No, cara madre, manco per niente. Perché in quanto a far l'amore, Assunta era democratica, Servi o padroni, tutti andavano bene. La realtà è che Assunta ci aveva un segreto. Un segreto, cara madre, che quando una donna gira per le strade vestita con gli abiti suoi addosso, sto segreto mica nessuno lo vede, mica nessuno se ne accorge. Ma un segreto, cara madre, che quando una donna sta nuda, spogliata, nuda, davanti all'amante suo, nel letto, una donna nuda, sto segreto non lo può più nascondere. E il segreto, cara madre, il grande segreto dell'Assunta, cara madre, il segreto che la gente non lo poteva sentire, intendere, non ci poteva credere se non lo vedeva, è che, cara madre, sto segreto dell'Assunta era che Assunta in petto suo teneva 3 zinne. Tre, mica due come tutte le altre donne solite, a tre, perfette, identiche, spiccicate, una presa all'altra, capito? Che dico io che sto operai, voglio dire, insomma, erano pure contenti di andarmi riammazzati, ma pur d'averlo visto e toccato con mano il miracolo. Cara madre, un bel giorno, Assunta era uscita fuori dall'edicola tabaccheria e in quel momento dai cancelli della fabbrica era uscito fuori Fausto, il nonno del mio capoforno, cara madre, quello che incontrai quella prima volta che entrai a lavorare in fabbrica. Fausto, quando vide davanti a sé Assunta, Fausto subito disse: vattene via, strega, stregaccia, vattene via. Ma quella stava lì ferma, immobile, una statua della Madonna. Vattene via, diceva lui, mignotta, prostituta, guarda un'altra, ma non a me. Ma lei stava ferma, immobile, era bella la Madonna, il volto di pietra scolpito. Alla Madonna si dice che no, è cattiveria. E così lui andò appresso alla Madonna, come alla processione. Assunta se lo prese, se lo portò nell'edicola da baccheria, chiuse le porte, tirò giù la saracinesca e fecero l'amore, un amore tra Assunta e Fausto che durò giorni, settimane, mesi, più di un anno. Tanto che, cara madre, c'è da dire che Fausto, quello appena usciva fuori dalla fabbrica, subito entrava all'edicola da baccheria e manco ci tornava a casa. Usciva fuori dall'edicola da baccheria e riattaccava il turno in fabbrica. Un po' di ore di qua, un po' di ore di là, un po' di ore di là, un po' di ore di qua. Edicola da baccheria, ecco, Assunta e in fabbrica alla fresa. Fresa, Assunta, Assunta e presa, doppio lavoro, un po' di qua, un po' di là. È dire che Fausto c'aveva pure una casa e c'aveva pure una moglie. Ma Fausto non tornava né dalla moglie dentro la casa né dalla casa intorno alla moglie. Quello, moglie e casa, se l'era scordate tutte e due, entrambe insieme. Solo ad Assunta pensava, giorno, notte, mattina e sera, ogni volta che cambiava il turno dalla parte, lo cambiava pure da quell'altra, ma sempre due turni faceva, capito, cara madre? Fino a che un bel giorno, un bel momento, tanto bello non era, ma Fausto si accorse che Assunta non lo voleva più bene, non lo amava, capito? Dire, cara madre, certe cose uno se ne accorge, no? Se il sentimento, se l'emozione scompare. E Fausto gli venne una tremarella, una paura, perché tutti quelli che a un certo punto lei non li amava più scomparivano. Mo dov'è che andavano a finire? Fausto mica lo sapeva, ma che facevano una brutta fine, quello era sicuro. Fausto allora quella volta lì, quel giorno, dopo giorni, settimane, mesi che stava lì da Assunta, da sta bellezza umana, da sta Madonna, dopo mesi che vedeva ripetersi il miracolo, la moltiplicazione delle zinne, giorno, notte, mattina e sera, si accorse che l'amore era finito, lui si buttò in ginocchio, gli disse: non voglio morire, disse, non farmi morire, non voglio morire. Cara madre, quella Assunta stava nuda, spogliata davanti a Fausto, nuda con le tre zinne piantate in petto, una appresa all'altra, come tre soldati. Gli disse: io non ti faccio morire, gli disse. Gli fece la grazia, proprio come la Madonna, non ti faccio morire, ma di queste tre zinne che tengo in petto, piantate nel petto mio come tre dolori, come i sette coltelli piantati nel petto della Madonna, di queste tre zinne, di questi tre dolori, tu non devi dire niente a nessuno. Cara madre, quello Fausto gli disse: è che questa qua è una grazia, questa è una condanna, come si fa a non dirla mo sta cosa che ho visto? Era meglio che mi facevi morire, gli disse, era meglio che ero morto, come tutti quell'altri poveracci, disgraziati. Come si fa a non dirla sta cosa? E come fai a non dirla una cosa che hai visto? Che più che è grande, è strana, è importante, più la vorresti dire, più te l'hai vista zitta, più stai zitta e più ti ritorna in mente. Come faccio a non dirla? Era meglio che ero morto, disse Fausto, alle volte è meglio morire che dover non dire. Così, cara madre, quella volta lì Fausto si alzò e se ne andò via con quella disgrazia che c'aveva addosso. E difatti devo dire, cara madre, che da quel giorno Fausto non aprì più bocca, disse più manco una parola, capito? Zitto, zitto con la moglie, con l'operaio in fabbrica, sempre zitto, zitto, muto era diventato. L'altro operaio in fabbrica diventavano sordi, alla pressofusione, alla fresa, lui era diventato muto, cascamento della lingua, malattia professionale che non esiste in fabbrica, muto era diventato, capito? Fino a che a un certo punto, dopo qualche mese, la moglie di Fausto gli disse a Fausto che c'aveva una bella notizia da dargli. Gli disse che mo era gravida, incinta, che presto gli sarebbe nato un figlio. Cara madre, dite bene voi quando dite, quando parlate dei santi, i santi quelli veri, mica quelli mezzi santi, mezzi no, quelli che vengono a scoprire le verità su Dio, la Madonna, il cielo, il paradiso, l'inferno, quei santi lì scappano, se ne vanno in cima alle montagne, non ci parlano più con le persone, perché certi segreti è meglio che le persone normali manco gli passano per la testa. I santi, quelli veri importanti, scappano in cima alle montagne e vanno a parlare con gli uccelli in volo, col lupo, col cane, con la foglia morta, capito? Ma quelle persone non ci parlano più per non farsi scappare i segreti importanti. E quello lì, Fausto, cara madre, era stato zitto con tutti, zitto con la moglie, con i compagni al circolo, con l'operaio in fabbrica, come i santi. E modo a cominciare a star zitto pure con una creatura che manco ancora gli era nata. Rimase zitto finché poteva. Poi arrivò uno di quei giorni lì. Fausto salutò con la moglie, con la mano, la salutò, se ne uscì dalla porta di casa e se ne andò in fabbrica. Marca, dimmi, vuole il cartellino, entra in fabbrica, Fausto. Lavora alla fresa 8 ore, fresa e zitto, zitto e fresa per 8 ore. Dopo 8 ore stacca. Marca, dimmi, vuole il cartellino, si infila nell'edicola da baccheria. Ordina l'ultimo caffè, l'ultimo ammazza caffè, l'ultima pagnottella. Paga e se ne va via. Fausto non torna a casa quel giorno, ma attraversa questa pianura di terra bruciata, polvere, sassi, la attraversa tutta quanta e zitto e non apre bocca. Si ferma solamente vicino a sto fiume, che c'è un fiume dietro alla fabbrica nostra, no, cara madre? C'è sta un fiume che, voglio dire, fiume per dire, sono tre lacrime in fila, ma insomma si chiama fiume pure quello, pure se sono solamente tre lacrime. Si fermò davanti a queste tre lacrime di fiume in fila, si mise in ginocchio zitto e si mise a scavare un buco. Scavò un buco e ci infilò la faccia nel buco. E quello lì Fausto aveva giurato che quel segreto di Assunta non l'avrebbe detto a nessuno, a nessuna persona umana, ma alla terra, alla profondità della profonda terra, sì che lo poteva dire. Così Fausto infilò la faccia nel buco e ci disse dentro tutto il suo segreto. Poi rimase zitto. Lo trovarono morto con la faccia infilata nel buco. Lo presero, fecero un buco più grande e lo messero a Caposanto sottoterra. Fine di Fausto, cara madre. Ma però dite bene voi, cara madre, quando dite che l'acqua del fiume è strana e curiosa, che dove arriva l'acqua del fiume subito sopra ci crescono le canne e il vento ci passa in mezzo alle canne del fiume. E dite voi, cara madre, che quando il vento passa in mezzo alle canne del fiume fa un rumore strano, uno sfregolio, un fischio che certe persone gli rassomiglia quasi a un latrato di bestia ferita, al pianto di ragazzino, ma certe volte, dite voi, cara madre, che il vento in mezzo alle canne sull'acqua del fiume pare quasi una voce umana che parla, che discorre, che dice parole. E quella volta lì, cara madre, quando che il vento passò in mezzo alle canne del fiume, sopra il buco di Fausto, quel rumore di vento in mezzo alle canne non pareva latrato di bestia ferita o pianto di ragazzina, ma pareva proprio una voce umana, una voce che diceva Assunta, diceva la voce Assunta, diceva sto vento, e tutti la intendevano per bene, dicevano senti un po' che dice sto vento in mezzo alle canne dell'acqua del fiume, Assunta diceva sto vento, Assunta, e tutti dicevano ma questa è proprio la voce di Fausto, da quello morto con la faccia infilata nel buco, Assunta diceva il vento in mezzo alle canne sull'acqua del fiume, Assunta tiene tre zinne, diceva il vento, tre zinne, diceva Assunta, Assunta tiene tre zinne. Per 3 giorni e 3 notti Assunta pianse Fausto che era morto a Camposanto. Dopo 3 giorni e 3 notti Assunta se ne tornò a lavorare all'edicola da baccheria di rimpetto alla fabbrica. Dopo 3 giorni e 3 notti nacque il figlio di Fausto. E dite bene voi, cara madre, quando dite che il morto porta il vivo, nel senso che quando muore qualcuno dentro una casa, poi nel giro di poco tempo subito nasce qualche un altro per riportare a pari i conti tra la vita e la morte. Il morto porta il vivo, dite voi, cara madre. Ma il vivo deve portare avanti la vita del morto e portarne anche il nome. Era per questo, cara madre, che il figlio di Fausto, poi, quando nacque, lo chiamarono Fausto come suo padre, per forza, cara madre, per portare avanti la vita del morto. Avevo 13 anni e 10 mesi, perciò non ho ancora 14 anni. E come me, diversi altri, qualcuno anche prima di me, più giovane di me, non ammettevano le marche assicurative da parte di coloro che non avevano 16 anni, previo un permesso del comune, che i comuni naturalmente gli davano, anche a 12 anni, però fino a 16 anni niente marche. Se lavoravi, pigliavi le ti davano, però niente marche. Io lavoravo una fresa universale e nel frattempo noi siamo entrati in guerra senza siluri, capisci? E così che la madre. Il figlio di Fausto, che mo si chiamava Fausto pure lui, appena ebbe l'età minima, subito lo misero a lavorare in fabbrica. Ma passò qualche anno e scoppiò la prima grande guerra mondiale, cara madre. E con la guerra mondiale tutti quelli che avevano l'età giusta dovevano andare in guerra. Mo per non farsi prendere in guerra, andare in guerra a far soldato, dovevi passare un esame per dimostrare che eri un operaio capace in fabbrica, che era meglio che te tenevano a lavorare. E allora il Ministero della Guerra aveva emesso un decreto nel quale dava l'esonero a tutte le armi, a tutte le specialità e a tutti i gradi, purché se andasse a lavorare e se avesse 2 anni di anzianità in una fabbrica facendo un capolavoro. Ma sapete cos'è il capolavoro, no? Per dimostrare che sapevi lavorare. Dovevi dimostrare che sapevi lavorare, che era meglio che ti tenevano a lavorare in fabbrica piuttosto che andavi in guerra a ammazzare persone. Così bisognava fare il capolavoro, che in genere era un incastro, no? Un incaglio da fare in acciaio oppure da fare in ghisa, o da fare in bronzo. Cioè, l'acciaio è più duro a lavorarsi, ma il bronzo è più complicato. E quando facevi questo incastro, che al piano di riscontro si vedeva che era fatto bene, avevi fatto il capolavoro, ti davano l'aumento e rimanevi a lavorare in fabbrica. Allora ti davano un pezzo di bronzo, d'acciaio, a me di bronzo che è più difficile, ti davo e te con un disegno e te dovevi tirarci fuori le misure di competenza che erano scritte nel disegno, interpretare il disegno e lì mi portarono a 2,83 lire la paga da quella specializzata, perché il capolavoro era da quella specializzata E hai più di sonno. E così, cara madre, il figlio di Fausto, che come dicevo si chiamava Fausto come suo padre, come quello morto con la faccia affilata nel buco, appena ebbe l'età minima lo messero subito a lavorare in fabbrica. Poi scoppiò la guerra, lui fece il capolavoro e rimase come operaio specializzato a lavorare in fabbrica in tempo di guerra. Che, cara madre, lavorare in tempo di guerra in fabbrica è una bellezza, perché c'è lavoro per tutti, no? La guerra produce lavoro, perché in guerra si deve produrre, no? La produzione di guerra. E lì era una bellezza, perché poi manco era finita sta guerra che si venne a sapere che in Russia mo non c'era più la Russia, ma l'Unione Sovietica. Che Russia c'era stata la rivoluzione del popolo russo, che gli operai russi comandavano pure più dei padroni. Figuriamoci, tutti quanti gli operai in fabbrica da Fausto dicevano: vedrai che quando è finita la guerra pure noi famo la rivoluzione del popolo russo qua in Italia, nella fabbrica nostra. Cara madre, poi questa guerra finì, che noi la guerra l'avevamo pure vinta, e quelli che tornavano dalla guerra, pure se tornavano senza un occhio, una orecchia, un braccio, una mano, un dito, una gamba, tornavano, che però gli avevano promesso la terra, il lavoro, la casa, la pensione, l'indennità, insomma una bellezza, c'era il lavoro, ci stavano i soldi, avevamo vinto la guerra. Ma cara madre, non passò manco un anno dalla fine della guerra che incominciarono i licenziamenti, che la gente disse: ma perché ci licenziate? Ci stava tanto lavoro prima. E beh, gli rispondevano i padroni, che non l'avete capito, che voi prima lavoravate perché c'era la produzione di guerra. Finita la guerra, finita la produzione, che rimanete a fare qua in fabbrica? Così, cara madre, incominciarono i licenziamenti ed era il 1919. Quell'anno lì, nel 1919, nella sede degli industriali a Milano, nascono i fasci di combattimento. Oh, dico, cara madre, il fascismo nasce nella sede degli industriali, dico, significherà pure qualcosa sta cosa, no? Mica che sarà finiti i posti non fare riunioni, che dice era libero solo lì, siamo andati lì, non c'è stava un altro posto, eh? Cara madre, il 1919, alla fabbrica di Fausto, a un certo punto gli operai vennero chiamati e gli si disse che ci stava un deputato venuto da Roma che faceva un discorso in piazza. Gli operai che andavano in piazza a sentire il discorso ci avevano mezza giornata libera pagata lo stesso. Figuriamoci questi qua, oh, chi era questo qua? Chi se ne frega, tutti in piazza a sentire queste chiacchiere. Ma questo pareva matto, la strilla, bestemmia, si è messo a urlare con gli operai che urlavano, a urlare, a litigare con questo qua. A un certo punto arrivò una squadraccia di gente che bastonarono tutti gli operai che stavano in piazza, che poi si venne a sapere che questa era una squadraccia chiamata la Disperatissima, arrivata appositamente da Perugia, ma si venne a sapere dopo. Per intanto, quel momento lì, la gente piavano le bastonate, qualcuno disse: oh, ma che sono ste botte? E si rispose: che sono? Sono che da oggi ha incominciato il fascismo. E cara madre, il fascismo in fabbrica da Fausto si chiamava Giovanni Berta. Giovanni Berta era il capo delle guardie fasciste, che le guardie in fabbrica già erano guardie da prima, ma col fascismo diventano guardia fascista, tutta una parola. E Giovanni Berta, guardia fascista, tutta una parola attaccata. Era uno ignorante, voglio dire, uno che già voleva comandare sugli operai, ma a un certo punto gli passò per la testa che voleva comandare su tutti, pure sul padrone. Figuriamoci, cara madre, e il fascismo in Italia se l'erano inventato proprio i padroni delle fabbriche. Sta per lì che Pietrasanta si faceva comandare da sto Giovanni Berta appena arrivato. Ma quello lì, Giovanni Berta, testardo, si mise a cercare, a rivistare, se puta caso non venisse fuori qualche scandalo, qualche mistero legato a questo pari di Pietrasanta, padrone della fabbrica, in maniera da tirarlo giù dal trono, insomma, no? Ma però questo pari di Pietrasanta sembrava proprio una brava persona, uno che non faceva niente di strano. Tranne che a un certo punto Giovanni Berta venne a scoprire che sto pari di Pietrasanta era uno che tanto aspirava ad affacciarsi alla finestra e vedere che tutto quello che stava davanti era roba sua, dire mio, tutta quanta roba mia, ma che però la terra era di un aristocratico nobiliare che non gliela voleva vendere, che morto l'aristocratico la terra passò nelle mani di Assunta la tabaccara, che Assunta gliela detta a pari di Pietrasanta. Ma Giovanni Berta non ci capì un granché, ma capì che se c'era un segreto da scoprire, questo segreto era tra Pietrasanta e Assunta. A quel tempo Giovanni Berta diceva a tutti quanti che tutti a sto paese hanno lo scheletro nell'armadio, ma lo scheletro di Pietrasanta sta nell'armadio di Assunta. Ma però, con sta Assunta, nessuno gli riusciva a parlarci. Assunta parlava solamente con Fausto, il figlio di quello lì morto con la faccia infilata nel buco. Fausto e Assunta stavano sempre insieme. Fausto si fidanzava, portava la fidanzata ad Assunta. Fausto si sposava, facevano il banchetto nuziale ad Assunta. Fausto e Assunta stavano sempre accucchiati, insieme. E il coltello e la forchetta, uguale, il secchio, l'olivaro, insomma, due persone sempre insieme. Che, cara madre, questo Fausto, Giovanni Berta, scoprì che era forse l'unico operaio della fabbrica che ancora non aveva preso la tessera del partito fascista. Quello Giovanni Berta si è messo a fare il lavoro suo, si attaccò a Fausto giorno, notte, mattina e sera, ogni momento, a dirgli: prendi la tessera, che fai, non prendi la tessera, tutti l'hanno presa, tu sei l'ultimo, ancora non la prendi, prendi la tessera. Che vuoi fare come Giolitti, gli disse, il presidente del consiglio del centrosinistra, che a un certo punto si arrabbiava perché dice che gli industriali italiani durante la guerra si sono rubati 200 milioni dallo Stato e che mo li devono ridare indietro, che da soli quelli dell'Ansaldo di Genova dei milioni se ne sono portati via 50. Cara madre, stiamo a parlare dei milioni al tempo della prima guerra mondiale, che mo sarebbero una barca di miliardi. Ma l'hai visto, disse Giovanni Berta Fausto, che l'Ansaldo di Genova, i fratelli Perrone, i milioni l'hanno dati a Mussolini per pagargli la marcia su Roma. E lo vedi che mo adesso l'Ansaldo di Genova no, i soldi non glieli deve più dare allo Stato. Non lo vedi che le industrie italiane sono tutte fasciste? Pirelli è fascista, Gianni Agnelli sono tutti fascisti. Ma lo vedi, le fabbriche in Italia sono fasciste, la fabbrica tua è fascista, diventa fascista pure tu. No, diceva Fausto, che vuol dire? Uno per lavorare serve mica la tessera, no? L'importante è che sei un operaio bravo, nessuno ti caccia via. Cara madre, a quel tempo, quando uno doveva uscire dalla fabbrica, quando uscivi, gli operai uscivano tutti in fila indiana e bisognava suonare l'imparziale. C'è stava un pulsante o una leva che tu spingevi o tiravi giù sta leva e poi sopra c'erano due lampadine, una verde e una rossa. A campione, se voleva accendere o quella verde o quella rossa. Se si accendeva quella verde è come il semaforo, passi. Se si accende quella rossa, suona pure una campanella e ti fermi. È una cosa del fascismo, ma esiste ancora nelle fabbriche questo imparziale, eh? Ancora adesso. Adesso c'è stata l'informatica, è una cosa un po' più complicata, ma sempre una fregatura, eh? Non si chiama imparziale, c'è un nome inglese, io non me lo ricordo, cara madre. Ma a parte questo discorso, stiamo a parlare di quel tempo lì. Quando che suonava la campanella c'è stava la perquisizione, a campione, no? Ti capitava a te, ti perquisivano a te. Ma quando la campanella dell'imparziale suonava a Fausto, arrivava Giovanni Berta in persona, lo perquisiva pure nelle mutande, si ritrovava un chiodo arruzzunito, una vite spanata che si era portato via dalla fabbrica, l'avrebbe cacciato via per furto. Prendi la tessera, gli diceva Giovanni Berta a Fausto. Perché te devi fare sempre perquisire? Prendi la tessera, che quelli che hanno la tessera ci fidiamo che sono persone d'onore, eppure se gli suona la lampadina li mandiamo a casa con tanti cari saluti. E no, diceva Fausto, che se uno non ruba non deve avere paura di niente, no? Perquisitemi sempre quando esco dalla fabbrica, perquisitemi pure quando entro, se puta caso rubassi qualcosa da fuori per portarla dentro. Cara madre, quando uno doveva andare al gabinetto, e in fabbrica tante volte ancora oggi è così, mica che poteva andare al gabinetto quando ti scappa, è come a scuola, devi chiedere alla maestra. In fabbrica chiedi al responsabile di linea, che scrive nome e cognome della persona che si allontana dal posto di lavoro, perché si allontana, dove intende andare, quanto tempo resta fuori, gli dà una coccarda azzurra, così era in fabbrica da Fausto, e quello può andare al gabinetto. Quando era Fausto a andare al gabinetto, Giovanni Berta gli andava dietro, le porte del cesso erano tagliate sotto e Giovanni Berta si affacciava sotto la porta del gabinetto per vedere quello che Fausto stava a fare dentro. Cara madre, che doveva fare dentro? Teatro sperimentale? Coreografie? Scenografie? Il balletto indiano? Il katakali? E teatro no? Faceva quello che fanno le persone normali quando vanno al gabinetto, quella piccola, quella grossa, tutte e due assieme. Ma se per caso Giovanni Berta avrebbe visto che Fausto aveva il giornale in mano, gli avrebbe aperto la porta perché c'erano catenacci, gli prendeva il giornale e leggeva la data scritta sul giornale. Perché se era un giornale vecchio, va bene, ma se era un giornale nuovo del giorno, voleva dire che non ci si stava pulendo, ma che se lo stava a leggere. E leggere il giornale in fabbrica è vietato. Prendi la tessera, diceva Giovanni Berta a Fausto, che quelli che hanno la tessera, santa pazienza, al gabinetto ce li lascio pure mezza giornata, il giornale te lo porto io, senza buona legge te lo leggo a alta voce, te faccio pure il caffè, l'ammazza caffè e la grappa. Prendi la tessera, te canto pure una canzone. Capito? E invece quello lì, Fausto, diceva che lui si portava la bottiglia. Perché, cara madre, a un certo punto, quelli che non c'avevano la tessera, ma dopo la guerra erano quelli che ce l'avevano la tessera ed era un'altra tessera, e questo è un altro discorso, ma a quel tempo lì del fascismo chi non c'aveva la tessera al gabinetto mica te ci mandavano, o te ci mandavano dopo un'ora, due ore, che se uno gli scappa mica lo sa preventivamente due ore prima, no? Quando scappa, scappa, e tu devi scappare al gabinetto, se no te la fa addosso. E allora gente così invece restava e limusinava una pisciata al gabinetto, se portavano la bottiglia, così se scappava lavoravano alla macchina e pisciavano in bottiglia. Prendi la tessera, ma Fausto se portava la bottiglia. In quei giorni si venne a sapere però e comunicarono a Giovanni Berta che presto sarebbe arrivato Benito Mussolini, il duce del fascismo, a parlare agli operai della fabbrica. Avrebbe parlato Mussolini, ma avrebbe parlato pure Giovanni Berta. Certo, il discorso lo faceva Mussolini, Giovanni Berta diceva tre fregnacce a fine del discorso, però Giovanni Berta capì che era arrivato il momento suo di fare bella figura. Parlare davanti a Mussolini. Rischiava Giovanni Berta di diventare una persona importante. Che quello lì, se faceva un bel discorso Giovanni Berta, Mussolini avrebbe capito che Giovanni Berta era una persona d'onore e l'avrebbe messo a lui a capo della fabbrica, non più sto Pietrasanta. Ma visto in Italia che era successo? Mica comandava più il Re della Democrazia, invece stava Mussolini, comandava solamente lui. Giovanni Berta, come era giusto, avrebbe dovuto comandare lui in fabbrica. E se comandava Giovanni Berta in fabbrica, manco pari di Pietrasanta avrebbe fatto più tanto il padrone. Pure il padrone Pietrasanta, se voleva andare al gabinetto, chiedeva la coccarda azzurra a Giovanni Berta, se no pure il padrone pisciava in bottiglia. Vabbè, passarono un po' di giorni e Giovanni Berta insieme alle altre guardie fasciste una sera stavano all'edicola da baccheria d'Assunta a bevere, a mangiare, a far bisboccia. A un certo punto, tutto ubriaco, Giovanni Berta prende, si alza in piedi, caccia fuori tutti quanti e rimane lui da solo insieme ad Assunta. E lui ad Assunta gli dice: io so che tu c'hai un segreto e me lo devi raccontare, tutto per filo e per segno. A me mi serve di saperlo, io devo sapere tutto, devo fare un discorso. Te lo pago, gli disse Giovanni Berta. Non quei soldi, attenzione che Assunta i soldi non avrebbe voluti prendere manco da Pietrasanta, che era il padrone. Gli disse: te lo pago dicendoti il mio di segreto. Ognuno c'ha un segreto, io ti dico il mio, tu poi mi dici il tuo. E questo, cara madre, è il segreto di Giovanni Berta, di come Giovanni Berta è diventato il capo delle guardie fasciste alla fabbrica. Ma per raccontare questo fatto devo aprire una parentesi in questa storia che vi sto a raccontare. Cara madre, Giovanni Berta, prima di diventare il capo delle guardie fasciste in fabbrica, era fascista, però era fascista, al paese suo non rompeva le palle a nessuno. Un bel giorno, al paese di Giovanni Berta, arrivò uno, un deputato di Roma che doveva fare un discorso, così andarono da Giovanni Berta, persona fidata, e gli dissero: tu devi portare tutti in piazza, tutti, magari a bastonate, a bruciargli la casa, ma tutti in piazza. Figurati, Giovanni Berta, un divertimento, schiaffi, bastonate a tutti quanti, tutti in piazza, a far numero. A un certo punto Giovanni Berta si fa l'ultimo giro e vede che in capo a un crocchio di case c'è un vecchio. Porca miseria, pensa Giovanni Berta, questo sarà pure che è vecchio, ma fa numero, no? Andò su dal vecchio e vide che il vecchio stava lì che raccoglieva le pere. Le pere, santo Dio, si è tolto queste tre pere. Tutte ste pere ve magnate voi che siete vecchio, disse Giovanni Berta. No, disse il vecchio, io le raccolgo per i figli miei. Io ho 7 figli, grossi, operai della fabbrica. Quando vengono si fanno una scorpacciata di pere. Perché mi serve, pensò Giovanni Berta, che era fascista ma non stupido. Se io meno a sto vecchio, saltano fuori sti 7 operai e mi fanno nero de bastonate. Nero davvero, nero ma de botte. Così presi e scappo via. Tornò dopo una mezz'oretta, 2 camionette, 15 persone, che vedrai che al vecchio e a sti 7 figli mi andavano tutti in piazza a far numero. Ma quando arrivarono su, trovarono una tavolata apparecchiata per 70, 80, 100 persone. E la Madosca disse: Giovanni Berta, è che sono tutti sti bicchieri, una trattoria. Ma non eravate 7-8 figli, c'è state voi che siete vecchio. Ah no, disse il vecchio, perché i figli miei lavorano in fabbrica, ai forni al mercurio. È un lavoro di responsabilità, bisogna saperlo fare, Però tutte le volte, tutti gli anni che ci sta la raccolta delle pere, vengono i figli miei, ma vengono con le famiglie e con altri operai. E ci incontriamo qua in campagna, all'aria aperta, se fa una mangiata che pare una fiera. Saremo sempre 70, 80, 100 persone. Porca miseria, pensò Giovanni Berta, se rompe sbriga a menà sto vecchio qui, gli antifascisti si mortificano, crescono come i funghi, si sviluppano come conigli, come le muffe. Prese, corse via, tornò dopo un'oretta, no? Con la squadraccia del pignattino che sono 200 persone, arrivarono su, in capo a sto crocchio de case, che il vecchio che stava ancora lì a raccogliere pere, ma manco lo stettero a guardare a sto vecchio, ma che gliene fregava, entrarono dentro casa, sfasciarono tutto, ruppero tutto, che vedrai che abbastonate li mandavano tutti in piazza. E invece entrarono dentro casa, de pere ne trovarono a tonnellate, de persone manco una. Porca miseria, disse Giovanni Berta a sto vecchio, ma dove stanno tutta sta gente che mi state a dire voi, tutta sta trattoria di persone, sto operai, e almeno i 7 figli vostri, quelli dove stanno? Sono morti, disse il vecchio, morti per idrargirismo. Cara madre, è difficile pure a scriverci sta parola, perché dice: i figli miei lavoravano ai forni al mercurio. Che i forni a mercurio si fanno come la grappa, il mercurio, per dire, no? Qui a Pordenone, parlare di grappa, ma insomma, vabbè, comunque, più o meno si fa così, dice il vecchio, si prende la pietra, cinabro, si scalda, esce fuori il fumo mercuriale che passa dentro una specie di serpentina e poi questo fumo mercuriale si addensa, diventa liquido ed è quello, il metallo liquido, l'argento vivo, no? Sai nel termometro quando si rompe che tutte ste pallette, stai una settimana a pulire ste pallette che scappano, no? Non si raccapezzano. E quello è il mercurio, che dice che il mercurio fa così, no? È liquido, ma dice che porta questa malattia. Idrargirismo, cara madre, difficile pure scriversi la parola. Dice che i figli sua sono morti così, che prima ti viene il tremore, poi inizia a perdere i denti, i capelli, i peli, le unghie, poi il tremore si ferma e basta, sei morto. Di idrargirismo. Sono morti i figli miei, disse il vecchio. Ma che vuol dire? Le pere sempre gli sono piaciute, sempre gli piaceranno. Io le raccolgo per loro. Vedrai che vengono a mangiarcele. Porca miseria, mo Giovanni Berta mica poteva raccontare al gerarca fascista che aveva messo su tutto sta ambaradan di persone, 200, tutte armate di fucile e moschetto che giravano per il paese, per cosa? Per un vecchio scemo che raccoglieva le pere per i figli morti. E il gerarca di Roma gli avrebbe menato. Così allora al vecchio lo cacciarono via e che non si facesse più vedere. Un secchio di pere se lo portò via pure Giovanni Berta, che era fascista, ma si vede che le pere gli piacevano pure a lui. Però la casa del vecchio gli dettero fuoco e la videro crollare, sparando per aria e per terra per più di 2 ore, per poi raccontare al gerarca di Roma che avevano cacciato via più di 300-400 antifascisti che gli erano andati a rompere le scatole per rovinargli la festa. Così quello lì, voglio dire, Giovanni Berta diventò un eroe e il giorno stesso venne promosso sul campo come capo delle guardie fasciste alla fabbrica. Ma la notte, prima di andare a lavorare in fabbrica, Giovanni Berta se ne andò a casa, si mise a dormire e da dietro a una porta di una camera sua, della casa sua, sentì come voci e rumori. Quello Giovanni Berta si alzò, andò ad aprire questa porta, ma vide che dentro la stanza non c'è stava nessuno. Così richiuse la porta a chiave, scanso equivoci, e si mise a dormire. La notte appresso di nuovo sentì rumori e voci dietro la porta. E così la notte dopo, una notte dopo l'altra, dopo settimane che sentiva ste voci, alla fine Giovanni Berta, manco più tanto per la paura delle voci, quanto per la curiosità di sentire quello che si stava a dì, appiccicava tutte le notti l'orecchia alla porta per sentire ste voci, e gli parevano come voci di operai che parlavano della pressa, del laminatoio, dei forni al mercurio, di Assunta quanto è bella la Madonna e il volto di Pietro scolpito. Poi arrivava l'alba e scomparivano voci e rumori. Una notte Giovanni Berta rimase tutta la notte con l'orecchia attaccata e non sentì né rumori né voci. La mattina presto andò ad aprire la porta e vide che nella stanza non c'è stava niente di particolare, niente era cambiato, manco la polvere si era posata sui mobili. Però trovò il secchio delle pere del vecchio. E il secchio ci stava, ma le pere più manco una. E così, Giovanni Berta, si ricordò di quello che diceva il vecchio? I figli miei sono morti, ma le pere sempre gli sono piaciute, sempre gli piaceranno, vedrai che se le vengono a mangiare. Così Giovanni Berta capì che le pere che c'aveva lui a casa sua se le erano andate a mangiare, e i figli morti del vecchio erano quelli che facevano rumore durante la notte. Ma mo, finite le pere, finite le voci. E questo, cara madre, è il segreto di Giovanni Berta, di come Giovanni Berta è diventato il capo delle guardie fasciste alla fabbrica, così come lo raccontò ad Assunta quella sera. Ma Giovanni Berta, detto sto fatto, disse ad Assunta: io il segreto mio te l'ho raccontato, mo tu mi devi raccontare il tuo, te l'ho comprato. Cara madre, qualche giorno più tardi, la moglie di Fausto andò in fabbrica da Fausto a portargli il pranzo. A quel tempo non ci stava la mensa, no? E la moglie di Fausto a Fausto gli disse: ti devo dire due cose, una bella e una brutta, come si dice al cinematografo, no? Che dico prima, quella bella o quella brutta? Quella bella, come si dice al cinematografo. Quella bella è che sono gravida, gli disse, incinta, aspetta un figlio mio e tuo. Quella brutta, invece, è che Giovanni Berta conosce il segreto d'Assunta e lo vuole raccontare a tutti. Ma non in mezzo alla strada, le dico, la tabaccheria. Giovanni Berta deve fare il discorso davanti a Mussolini. Come discorso? Davanti a Mussolini racconterà il segreto d'Assunta e dice che è un segreto che rovescerà la fabbrica come una frittata, tirerà giù i santi dal paradiso. Figuriamoci, cara madre, quello lì Fausto stava a pensare al figlio suo che gli stava per nascere e al padre che gli era morto con la faccia infilata nel buco proprio per non raccontarlo a nessuno, sto segreto d'Assunta. Pensava al padre e al figlio e al padre, al padre e al figlio, al figlio e al padre. Non dormiva più la notte, arrivò la notte prima dell'arrivo di Mussolini in fabbrica. Quella notte stessa Fausto se ne andò in fabbrica, se ne andò da Giovanni Berta che faceva il turno di guardia di notte, e a Giovanni Berta gli disse che sì, adesso questa tessera la voglio prendere, gli disse Fausto a Giovanni Berta, non per me, per il figlio mio che mi sta per nascere, perché a me un lavoro non me lo leva nessuno, io sono operaio bravo, ma al figlio mio, ma chi lo prenderà mai a lavorare? Il figlio di uno che non c'ha manco la tessera, che non è allineato al fascismo. Così io la prendo la tessera per me e per lui. Però in contracambio voglio una cosa, gli disse Fausto a Giovanni Berta, perché Giovanni Berta già era contento, faceva i salti di un metro per aria per questa cosa, come l'ultimo operaio della fabbrica che ancora non aveva preso la tessera, ma la prendeva. Il giorno appresso a Mussolini, Giovanni Berta gli avrebbe raccontato pure questo fatto, quest'altra vittoria del fascismo. E allora Fausto gli disse: io una cosa in cambio la vorrei, io mi voglio mettere su una bella officina, bella, il posto per fare l'officina ce l'avrei, ma mi mancano i ferri, no? Gli strumenti, gli utensili, giravaschi, girafiliere, punte, trapani, lime, raspe, insomma quello che serve dentro un'officina come si deve, e io i soldi per comprarmi questa roba non ce l'ho. Però, disse Fausto a Giovanni Berta, io so che in fabbrica, nei magazzini di sta roba ce n'è a quintali, facciamo una cosa, io prendo la tessera, tu fai bella figura, ma tu durante questa notte chiudi un occhio, magari tutte e due mi dai pure una mano a portarmi via dalla fabbrica tutto quello che riesco a portarmi via. Giovanni Berta disse di sì, gli sembrava lo scambio onesto, se poteva pure fare. Entrarono in fabbrica e si portarono via una carrettata di roba. Uscirono fuori dalla fabbrica Fausto e Giovanni Berta, contenti che cantavano allegri tutte e due. Traversarono davanti alla fabbrica il piazzale di cemento armato e poi questa pianura di terra bruciata, polvere, sassi. La traversarono con sto carretto di roba. Arrivarono fino davanti al fiume che, cara madre, ribadisco, fiume di nome, ma de fatto sono tre lacrime in fila. Comunque tutti lo chiamano fiume, chiamasi fiume. Si fermarono davanti a sto fiume e si messero a scavare. Scava, scava, scavava Fausto, ma scavava pure Giovanni Berta, e Giovanni Berta era contento, felice, felice, perché il giorno appresso sarebbe arrivato Mussolini e lui avrebbe fatto un bel discorso, avrebbe raccontato il segreto d'Assunta, parola per parola, se lo ripeteva nel cervello, parola per parola, se lo ripeteva Giovanni Berta, mentre scavava, parola per parola, come la poesia di Natale ai ragazzini, no? Che stanno lì 2 ore, stanno fermi, tu dici che starà a fare? Parola per parola, la poesia di Natale da dire a Natale, parola per parola nel cervello, parola per parola, che non stava più a pensare a Fausto, che nel frattempo se n'era andato via e era tornato con la milizia fascista. La milizia fascista trovò Giovanni Berta, a parte che parlava da solo, ma quello era un fatto suo, insomma, che però scavava per nascondere tutta quella roba appena rubata dalla fabbrica. Non ci voleva un investigatore privato, Tenente Colombo, per capire che insomma era lui Giovanni Berta che aveva rubato dentro la fabbrica. Giovanni Berta era fascista, ma non cretino, smise di parlare da solo, si è messo a correre, scappò via, tutti gli corsero appresso. Giovanni Berta si trovò da solo in cima al ponte e tutti gli stavano per saltare addosso. Giovanni Berta scavalcò la sbarra di ferro ruzzunita del ponte per buttarsi nel fiume, ma si accorse tristemente che quello sulla carta geografica è un fiume come tutti gli altri, ma ci stava più acqua disegnata sulla carta geografica, che era quella che stava veramente là sotto. Se buttava sotto si rompeva la testa. Giovanni Berta scavalcò la balaustra, la sbarra di ferro ruzzunita, ma rimase appeso così, come un salame, come un impiccato. Porca miseria, mo Fausto era contento, vedeva questa carogna, sto fascista attaccato come un prosciutto a questa sbarra di ferro ruzzunita. Mai Giovanni Berta sarebbe arrivato davanti a Mussolini a fare il discorso, ma Giovanni Berta attaccato a questa sbarra di ferro il discorso lo fece lo stesso, attaccato a quella maniera, parola per parola, come la poesia di Natale. I ragazzini, se ti dimentichi di fare la dia a Natale, te la dicono alla Befana, se la ricordano loro. Se ti dimentichi alla Befana, te la dicono a Carnevale, te la dicono a Ferragosto, non se la scordano mai, fino a che non gliela fai lì. Parola per parola, attaccato a sta sbarra di ferro, disse il segreto d'Assunta, è la bellezza di questa donna. Bella, una Madonna, il volto di pietra scolpito. 3 zinne tiene in petto, disse. 3, non fece il segno 3 con la mano perché stava attaccato così, non si poteva, cascava. 3 zinne, tutti dissero 3. 3, disse lui, proprio 3 zinne. Ecco perché tutti quelli che la vedevano e la conoscevano a quella maniera si innamoravano tutti. Tutti si erano innamorati, disse Giovanni Berta. Tutti, eppure il padrone, pari di Pietrasanta. Tant'è vero che Assunta, disse Giovanni Berta, attaccata alla sbarra di ferro, quando Assunta seppe che Pietrasanta era innamorato, subito andò da Pietrasanta e disse, sposami, no? C'è l'amore, sposami. No, disse Pietrasanta, non ti sposo. Tu sei una serva, una paraia. Come amante ti ricopro d'oro, ma sposarti non c'è verso, non ti sposo. Quella allora Assunta lo sapeva qual era la fissazione di Pietrasanta, no? Cioè, di poter affacciarsi alla finestra e dire mio, tutta quanta roba mia, ma la terra era dell'aristocratico nobiliare, così Assunta lei andò dall'aristocratico nobiliare e se lo sposò. E l'aristocratico nobiliare, scemo e puzzolente, però sai, è sposata Assunta, a Madonna gli piaceva il volto di pietra scolpito. Tant'è vero che Pietrasanta andò ad Assunta e disse, assù, tanti uomini che stanno al mondo, proprio sto vecchio puzzolente, questo qua è una carogna, il peggior amico mio, amico, nemico, una carogna viva proprio, ma io l'ho sposato per te, disse Assunta, perché questo qui è vecchio e deve morire, se non muore lui lo faccio morire io, la terra sua passa a me, io poi la do a te, aspetta, no? Gli disse Assunta a Pietrasanta, come il cinese sulla riva del fiume, e quella lì Pietrasanta aspettò, e sul fiume cinese il cadavere puzzolente del vecchio ci passò, e come, non erano passati manco 2 anni, così Pietrasanta andò da Assunta per avere la terra, e Assunta gli disse, per la seconda volta ti dico, sposami, sposami, prendi a me e prendi pure la terra, sposami. No, disse Pietrasanta, non t'ho sposato prima che eri una serva, non te sposo adesso che sei una serva arricchita col nome di sto vecchio puzzolente morto. La terra te la pago 100 volte di più, ma te non ti sposo. Assunta gliela vendette per 2 lire, sta terra gliela fregava assai della terra. Assunta voleva diventare padrona, padrona della fabbrica dove aveva lavorato come una serva. Così allora con quei soldi si comprò un'edicola da baccheria di rimpetto alla fabbrica e si mise lì ad aspettare. Tutte le volte che usciva Pietrasanta, pari di Pietrasanta il padrone, e lei gli si piazzava davanti e Pietrasanta diceva, vattene via, strega, stregaccia, mignotta, prostituta, guarda un operaio, guarda un dirigente, guarda un impiegato, ma non a me che sono il padrone. Ma lei stava lì, si faceva guardare, era bella la Madonna, e la Madonna non si dice di no, e Pietrasanta gli andava appresso, e andò avanti sta storia da Pietrasanta e Assunta per giorni, settimane, mesi, più di 1 anno, fino a che alla fine Assunta rimase gravida, incinta, la pancia grossa così, se ne andò da Pietrasanta e gli disse, per la terza volta ti dico sposami, nel ventre mio c'è un figlio che è pure tuo, sposami. Sì, disse Pietrasanta. Sì, ma non subito. Prima sto figlio lo voglio vedere nato. Se è bello, te sposo. Se è brutto, non se ne parla. Oh, disse, io sono il padrone, figli miei mica devono essere brutti. Ma che scherziamo? E poi, disse Pietrasanta, io sono commerciante, sono fatto così. Io una cosa, se mi piace, la pago pure 10 volte di più. Ma se non mi piace, se non mi garba, non me la prendo manco se me la regalano. Ti sposo. Ma prima dobbiamo vedere il figlio. Col figlio alla mano. Io ti sposo. Se è bello, ti sposo davvero. Ma deve essere bello, eh? Sei bello te sposo. E gli mettiamo pure un bel nome, disse Pietrasanta. Sai come lo chiamiamo? Benito, come il duce del fascismo. Sì, dice Pietro Santa, io Benito Mussolini lo conosco pure, è un amico mio, figuriamoci. Viene Benito Mussolini stesso a fargli il battesimo. Benito Grosso e Benito Piccolo, Benito e Benitino. Porta bene, no? Guarda, ti sposo. Sei bello il figlio, ti sposo, lo chiamiamo Benito. Cara madre Assunta, non gli pareva vero. Figuriamoci, perché doveva nascere brutto il figlio? Mai si è visto che un figlio nasce brutto, no? Tutti i figli quando sono nati sono belli. Poi si dice se è guastato nel crescere, no, per dire. Ma si dice mai, è nato un figlio, la madre, ha mai visto una madre, dice, ma è nato un figlio, è uno scorfano, fa schifo. No, si è mai detto. Si dice sì, è particolare. Si dice a chi rassomiglia? Alla nonna, che magari è brutta lei, no, per dire, no. Ma si dice mai, è brutto. E poi tanto bella era lei, tanto bello sarebbe stato il figlio. No, lei era bella, la Madonna. Il figlio della Madonna è Gesù Cristo. E alla fine sto Cristo nasce. E nasce brutto. Brutto che nessuno poteva dire, beh, no, brutto. Brutto, scemo e deforme, brutto, un mostro. Mi dispiace, disse Pietrasanta, sto figlio è brutto e non è mio. Adesso faccio quello che ti pare. Ammazzalo, strozzalo, affogalo, sotterralo, crescilo, campalo, chiamalo come ti pare te. Chiamalo Benito, gli disse. Ecco, sto figlio è brutto, chiamalo Benito, ma nessuno deve sapere che è nato e nessuno deve sapere che è figlio mio. Ecco qual era il segreto. E Giovanni Berta, attaccato a quella sbarra di ferro, il segreto lo stava dicendo tutto. Il segreto era che Assunta e Pietrasanta avevano un figlio brutto, scemo e deforme, che alla faccia del fascismo l'avevano chiamato Benito. Hai capito? E quando Giovanni Berta faceva questo discorso davanti a Mussolini, gli diceva sta bella cosa, ti pare che era contento Mussolini, che l'amico suo, pari di Pietrasanta, il celebrato industriale italiano, c'aveva un figlio brutto, scorfano, che alla faccia del fascismo l'aveva chiamato Benito. Quello Mussolini a cazzotti lo ammazzava Pietrasanta davanti a tutta la fabbrica. Ecco per quale motivo tutti gli operai che passavano per la casa di Assunta scomparivano tutti. Per forza, perché Pietrasanta, sapendo che un operaio era stato là dentro la casa di Assunta e che forse aveva scoperto il segreto del figlio brutto, Pietrasanta, il padrone, prendeva quell'operaio e lo sbatteva nel fondo del fondo della fabbrica, in un reparto confino dove quando ti chiudevano là dentro scomparivi e ci stavi fino alla morte. Un reparto confino che la gente manco sapeva dove stava, capito? Ma quello lì, Giovanni Berta, capo delle guardie fasciste, ci andò in questo reparto confino e vide dov'è che stava e che cosa si faceva. Ecco che cosa disse Giovanni Berta. Di quel reparto lì parlò, dove ci stavano i forni al mercurio. E sai perché nessuno deve sapere che c'è il mercurio in fabbrica? Perché mica ci fa i termometri col mercurio, pari di Pietrasanta, ma si fa il fulminato di mercurio per fare gli inneschi per le armi, per le bombe, per gli esplosivi. E nessuno deve sapere che Pietrasanta fa le armi, perché Pietrasanta le armi non le dà mica a Mussolini, bensì alla Francia, all'Inghilterra, all'America, all'Unione Sovietica, ai peggio nemici dell'Italia del fascismo. Ecco qual era il segreto. È attaccato con sta sbarra di ferro con le mani. Giovanni Berta il segreto lo stava dicendo tutto. E quando Mussolini avrebbe saputo che Pietrasanta era amico suo, faceva le armi e le vendeva ai peggio nemici dell'Italia, quello Mussolini neanche a cazzotti lo ammazzava a Pietrasanta, lo guardava con lo sguardo laser, lo bruciava pure da lontano. Ma che scherziamo? Ecco qual era il segreto d'Assunta, la bellezza di Assunta, Trezzine e Tremampetto, il figlio brutto che alla faccia del fascismo l'avevano chiamato Benito, le armi che Pietrasanta faceva alla faccia del fascismo e le vendeva ai peggiori nemici dell'Italia. Fausto prese la rivoltella, sparò a Giovanni Berta. E cazzo. La milizia fascista che erano arrivati per catturare un ladro, si trovarono davanti all'intrigo internazionale, tutti c'erano di mezzo, tranne il Papa. Presero, si allontanarono, tornarono la milizia fascista con pari di Pietrasanta in persona. E Pietrasanta disse, sì, è vero, è tutto vero, ma era un segreto, disse Pietrasanta, come i segreti dei santi, quelli che quando vengono a scoprire le verità su Dio, la Madonna, il cielo e il paradiso, i santi veri scappano in cima alle montagne e vanno a parlare coi sassi, perché certi segreti la gente non li deve sapere. Lo sapevo io, disse Pietrasanta. Beh, ma uno lo deve sapere in segreto, no? Se non lo sa nessuno, non è in segreto. Che è? Aria fritta. Se è in segreto, non lo sapevo nessuno. Non è in segreto, non è niente, no? Lui lo sapeva, Pietrasanta lo sapeva. Lo sapeva Assunta. E quello lì, sai, il potere, i potenti, no? Che lo sappia una bella donna, pure una bellezza. Lo sapeva Giovanni Berta. Ma mo Giovanni Berta era liquidato, era morto. E lo sapeva Fausto. E davvero Fausto il segreto non lo doveva conoscere. Così presero Fausto, lo portarono fino alla buca che era stata scavata per nasconderci tutto quello che si erano rubati dalla fabbrica. A Fausto gli infilarono la faccia nel buco, lo spararono, lo lasciarono morto. Il giorno appresso lo trovarono morto vicino al fiume come il padre, con la faccia nel buco. E come il padre lo presero, lo portarono al Camposanto e lo messero sottoterra. Ma cara madre, su Giovanni Berta devo dire due ultime cose. La prima non riguarda proprio Giovanni Berta, ma Mussolini e le armi. Cara madre, Mussolini, delle armi che Pietrasanta faceva nella fabbrica sua, Mussolini lo sapeva. Se non sapeva Mussolini, chi è che faceva le armi in Italia? Chi lo doveva sapere? Mi nonno che lavorava al cinema Iris e a Via Nomentana e strappava i biglietti? Lo sapeva sì Mussolini. Fu Mussolini in persona a vendere le armi perfino all'Inghilterra, fino a qualche giorno prima di entrarci in guerra contro l'Inghilterra, purché gli inglesi pagassero subito e almeno una parte in oro. Cara madre, la guerra, la gente, mica la fa perché crede alla guerra, perché sono tutti guerrafondai. Siamo tutti pacifisti, su questo siamo d'accordo. Ma davanti ai sordi, voglio dire, pure Mussolini li vendeva le armi. Ma la seconda verità che devo dire su Giovanni Berta, cara madre, è che Giovanni Berta era pure fascista e carogna, ma era una persona cocciuta, un testardo. Stava attaccato a sta spada di ferro e pensò solamente ad una cosa, a dirlo tutto il suo segreto, tutto fino all'ultima parola. Strinse le mani, aprì la bocca e cominciò a parlare. Strinse le mani talmente forte che mo che era morto, rimase attaccato. Lì, papro, vai, aprì ste mani, non si aprivano, una morsa, una tenaglia. Tira, tira, tira, tira, questo si staccava. Tignoso, da vivo, peggio ancora da morto. Non si staccava da sto ponte, mica lo potevano lasciare là. Mo, roba di poco tempo, un'ora, due ore, arrivava Mussolini con tutto il codazzo delle capiere fascisti, che gli dicevano, ah, quello sì, è un fascista, è morto, è rimasto attaccato. Per dire, una figuraccia, insomma, no? Come fai? Fai una cerimonia dentro casa tua, c'è un morto attaccato, insomma. Che dici? Meglio la polvere sotto al tappeto, ma un morto dove ti puoi attaccare a quel ponte? Così sai, la milizia fascista si misero a ragionare, fecero una tempesta di cervelli, come si dice, no? Insomma, ragiona, alla fine arrivò un fascista più pratico, con accetta, colpi l'accetta, gli staccarono le mani al corpo o buttarono dietro una frasca. Poi Giovanni Berta ci raccontò che era morto in Africa, un aviatore, un eroe fascista. Cara madre, sulle mani di Giovanni Berta ci sta ancora una canzonetta che la cantano pure i ragazzini qui da noi, che per l'appunto dice: hanno ammazzato Giovanni Berta, figlio di pesce cani, sempre sia benedetto chi gli tagliò le mani. È un ritornello che io da ragazzino, no? Avevo sentito naturalmente cantare in casa mia. Cara madre, pure voi l'avrete cantata questa canzonetta, era una cosa che si cantava, che rimaneva impresso sto fatto di Giovanni Berta. E allora hanno ammazzato Giovanni Berta, figlio di un pesce cane, era figlio di un riccone fiorentino, sempre sia benedetto che gli taglio le mani. Io mi ricordo questo ritornello: hanno ammazzato Giovanni Berta, figlio di pesce cani, sempre sia benedetto che gli taglio le mani. Io ho detto questo a 70 anni, a 80 anni. Sì. Era un eroe fascista. Per tre giorni e tre notti Assunta pianse Fausto che era morto, lo pianse al cimitero, ma dopo tre giorni e tre notti Assunta tornò a lavorare all'edicola da baccheria e riaprì di rimpetto la fabbrica. Dopo tre giorni e tre notti però, cara madre, nacque il figlio di Fausto. E dite bene voi, cara madre, quando dite che il morto porta il vivo, nel senso che quando uno muore dentro una casa poi subito nasce qualcun altro per riportare a pari i conti tra la vita e la morte. Il morto porta il vivo, dite voi, cara madre, ma il vivo deve portare avanti la vita del morto e portarne anche il nome. Ed è per questo, cara madre, che il figlio di Fausto venne chiamato Fausto come suo padre e come suo nonno, cara madre, per portare avanti la vita del morto. E quel Fausto lì, appena nato, era precisamente il Fausto, il mio capoforno, quello che, cara madre, io conobbi la sera del 16 marzo 1949, appena entrato a lavorare in fabbrica. Marco, timbro, bulla, il cartellino, no, ripeto, cara madre, dallo spogliatoio, me ne vado al centro della fabbrica. Arrivato al centro della fabbrica a lavorare come scovazzino, manovale semplice, scopare il carbone, cara madre, incontro Fausto, il mio capoforno, lui mi imparerà il mestiere in fabbrica. Fausto, la prima cosa che mi dice è che la fabbrica c'è un centro, il centro della fabbrica è l'altoforno, tutto lo stabilimento lavora affinché funzioni bene l'altoforno, quando l'altoforno funziona bene produce pure la corrente elettrica che manda avanti tutta la fabbrica, il centro della fabbrica è l'altoforno, dice Fausto, cara madre, noi stiamo al centro della fabbrica. Questa è la prima cosa che mi dice, ma la seconda cosa che mi dice subito è che sicuramente se sono sbagliati a più a lavorare uno come te, perché quelli come te li licenziano, mi dice, ci sarà stato un equivoco, non sbaglio, vedrai che domani mattina quando esce alle 6 ti danno la lettera di licenziamento subito stampata per bene o la revoca d'assunzione, che sono due uffici diversi, due lettere diverse, due carte diverse, ma tutte e due vanno dicche, da domani non torni a lavorare. C'è stato uno sbaglio, dice Fausto. Gli unici che rimangono a lavorare adesso sono quelli che ci hanno avuto la disgrazia. Io, per esempio, dice Fausto, io con sta gamba mancante, a me non mi licenzia nessuno, manco Gesù Cristo e la Madonna. E poi io ormai ci lavoro da generazioni in fabbrica, ci lavorava mio padre e mio nonno. Ma però, disse Fausto, se non si sbrigavano tutti e due a lavorare stanotte, mi cacciano via pure a me, alla gamba, a mio nonno, a mio padre morto. E così io e Fausto ce ne andiamo verso l'altoforno. Ma però Fausto mi dice che per andare all'altoforno mi vorrebbe far passare non dal piazzale di cemento armato, ma da sotto, che ci stanno i vecchi forni al mercurio che sono 20 anni che non se lo utilizzano più, dice Fausto. Dice Fausto che è una cosa bella, interessante, meravigliosa da vedere. Dice Fausto che se ne vedo oggi ne vedo più perché domani mi licenziano. E allora passiamo da sotto. Io, Fausto e altre 7-8 persone passiamo lì sotto, macerie, un macello, ma una cosa entusiasmante a vedersi, eh? Tutto buio, e Fausto cammina davanti con... sai, queste pistolette, no? Queste cose lì che mo c'hanno i russi, dinami, no? Che fa una lucetta piccola piccola, a vederla, cara madre, un'impressione a vedersi, eh? Poi ogni tanto però Fausto si ferma con sta dinami, rimaniamo al buio, cara madre, è buio là sotto, eh? Buio come quando è buio e tieni gli occhi chiusi, e non è buio come là sotto con gli occhi aperti, buio, cara madre. E io mi fermo al buio lì sotto in mezzo a sti forni al mercurio e sento i topi che ci camminano a un centimetro, cara madre. Io penso, ecco là, i topi ci saltano addosso e ci divorano tutti. Una paura. Dice, quello ha fatto la fine del sorcio. No, dico io, peggio, la fine di quello magnato dal sorcio, capito? Perché cara madre, dite bene voi quando dite che l'uomo era bestia, c'è sempre una differenza. I topi sono bestie, al buio stanno bene. Siamo noi persone umane che ci serve sempre la luce, l'andiamo sempre cercando, l'illuminazione. Per fortuna, cara madre, che io avevo un pacchetto di fiammiferi, ogni tanto tiravo fuori il fiammifero, accendevo, facevo un poco di luce, mi guardavo attorno, vedevo che i topi c'avano ancora divorato, stavo tranquillo. L'uomo era bestia, cara madre, c'è sempre una differenza, anche se a volte questa differenza si tratta solo di un fiammifero. Comunque lì sotto al buio, cara madre, a un certo punto sarà che era buio, ma gli ho chiesto a Fausto delle informazioni di dirmi il come mai della mancanza della gamba, che aveva perso sta gamba. Fausto mi ha detto che me lo poteva dire a me, tanto da domani non ci saremmo più visti. Fausto dice che da quando era ragazzino c'aveva l'abitudine che quando si svegliava la mattina, per abitudine scendeva dal letto sempre con la gamba destra. Oh, un'abitudine che chissà quanti di noi ce l'hanno, no? Solo che chi è che ci fa caso? Io per esempio, a me che me frega, la mattina a me già mi pare un miracolo che scendono tutte le volte dal letto, pure con gomito, con orecchie, andrebbe bene, ma questo è un altro discorso. Fausto però, una persona precisa, fece attenzione a sto fatto della gamba destra, no? Dice Fausto che però a quel tempo, all'altoforno, mezzo all'acciaio, si lavorava mica con le scarpe speciali, no, non ci stavano manco l'amianto, ci stava a quel tempo. Dice che si lavorava con i zoccoli di legno, certi zoccoli grossi così parevano trampoli, per non bruciarsi i piedi, capito? Però a muoversi tutti i zoccoli era come andare a proposito di trampoli, che un giorno si rovesciò la rigola dove correva l'acciaio, quello sono 1200 gradi, oh, gli è arrivato sopra la gamba, 1200 gradi, non c'è gamba che tiene, meglio la gamba, dice Fausto, ho perso la gamba, ma meglio la gamba che la testa, senza la testa morivo, senza la gamba campo ancora, meglio la gamba, dice Fausto, meglio la gamba, però mostra senza una gamba, sarà sana, c'ha la chiappa, finita pure la gamba, niente gamba, dall'altra chiappa e gamba, da quell'altra niente gamba, solo chiappa. Oh, cara madre, meglio la gamba, ma è stato 2 anni e fermo tra ospedale e casa è rimasto Fausto. 1 anno all'ospedale e 1 anno a casa. Ma dopo 2 anni, visto che Fausto c'aveva la disgrazia eppure grossa, la società della fabbrica l'ha ripresa a lavorare. Dice Fausto che la prima mattina, appena gli è suonata la sveglia, per la prima volta doveva ritornare a lavorare dopo 2 anni, spenge la sveglia, scende dal letto, per abitudine, che ha la gamba destra, proprio per terra, a culo per terra come una vera cotta. E dice Fausto che pure tutte le altre mattine, sempre sta storia, per settimane, per mesi, capito? Perché dice Fausto che uno la gamba la perde, ma l'abitudine no, capito? E poi dice Fausto che lui di notte le gambe, nei sogni, se le sognava tutte e due, entrambe, capisci? Perché uno nei sogni mica perdi una gamba, oh, te sogni senza una gamba, per dire, no? No, la gamba la perdi alla gamba, ma di notte nei sogni fai che la testa, mica che la gamba, capisci? Anzi, lui dice che di notte si sognava che camminava sui tetti, che faceva l'acrobata, che era un circense, capito? Che saltava, correva, faceva i capriole per aria. La mattina si svegliava, che si pensava che chissà quante gambe ci aveva, che correva e saltava, l'abitudine di scendere con la gamba destra, scendeva, parvò, a culo per terra. Dice Fausto che però poco tempo fa, da ottobre, da quando che hanno principiato e cominciato quei licenziamenti, dice Fausto che una mattina si è svegliato e sceso dal letto con la gamba sinistra. Dice Fausto che mo dovrebbe essere contento, invece manco per il cavolo. Perché dice Fausto che prima era uno storpio di giorno, ma di notte si sognava che correva e saltava. Invece dice che mo adesso di notte le gambe ha incominciato a sognarsene tutte e due, ma la destra, quella mancante, dice che se la sogna pesante, pesante, come che sarebbe diventata d'acciaio, di ghisa, dell'acciaio che gli era portata via. Dice che di notte nei sogni suoi tutti corrono e saltano e lui sta attaccato a sta gamba, non riesce a spostarsi, inchiodato per terra, urla, strilla, bestemmia, ma non si sposta. Dice Fausto che dovrebbe essere contento, invece manco per il cavolo, perché prima di giorno era uno storpio, ma di notte correva e saltava. Mo di giorno era lo storpio di prima, e di notte sta attaccato a una gamba che lo tiene inchiodato per terra, crocefisso come Gesù Cristo. E strazianti, cara madre, devono essere i sogni di uno storpio. E dite bene voi, cara madre, quando dite che noi uomini siamo sempre colpevoli, dite voi, cara madre. Io dico sempre colpevoli, certo, dite voi, cara madre. Colpevoli, tutti colpevoli siamo noi cristiani. Dico pure i ragazzini, quelli piccoli, certo, dite voi, cara madre. Pure quelli appena nati, certo, dite voi, cara madre. Pure quelli che devono ancora nascere. Sono già persone, sono già colpevoli. Una fabbrica dei colpevoli, dite voi, cara madre. Dite che noi siamo buoni solamente quando dormiamo. Solo quando dormi sei buono. Solo quando dormi e sogni sei innocente. Dite voi, cara madre. Dico io, cara madre, che uno storpio, per la rabbia che c'è in corpo, non è innocente, manco quando dorme. Comunque adesso, cara madre, siamo arrivati al centro della fabbrica, un posto che si può raccontare, eh? La fabbrica, l'alto forno, fuochi, fiamme, un vulcano, Pompei sotto al vulcano, pare, un macello, fuochi e fiamme da tutte le parti. A un certo punto, cara madre, Fausto mi indica uno, no? Un operaio, uno scemo, proprio deficiente di cervello, che sta lì che scava nel carbone, locco, locco, scemo, scemo, pacioso, sta lì che scava nel carbone. Fausto mi dice, la vedi quello là? Quello è un handicappato di cervello deficiente, quello non capisce niente, quello ce l'hanno mandato giù all'inizio della guerra, mi dice Fausto, no? Questo qui, dice che stava sempre fermo, fermo. Tanto ci hanno detto, questo qua, magna, dorme, non rompe le palle a nessuno. Uno, manca preparola. Allora noi l'abbiamo lasciato lì davanti al carbone, però un giorno sei per ridere, mi dice Fausto, perché qua sotto se non ridi sei morto, no? Ci siamo avvicinati, abbiamo buttato un poco di polvere di pirite sopra il carbone, no? Perché a polvere di pirite la chiamano l'oro dei scemi, perché pare oro, no? Però è dei scemi, e pirite non pare niente. Gli eravamo buttati così, capito, sul carbone. Questo qui allora lo scemo ha visto tutto sto sbralluccichio, si è alzato, ha detto che, e ho detto, Gesù Cristo è risorto, è Pasqua, che, gli abbiamo detto, è oro, scava, abbiamo trovato l'oro, scava. E questo si è messo a scavare, capito, come Paperon de Paperoni, Rocker Duke, nel Klondike, sta lì che scava, hai capito quanto è deficiente il cervello questo qua? Si chiama Benito, capito? E dire che sua madre era una bellezza rara, una Madonna, il volto di pietra scolpito. Cara madre, lo scemo, lo scavatore, il cercatore d'oro, è proprio Benito, il figlio di Assunta e di Pietrasanta, che Pietrasanta l'ha sbattuto nel fondo della fabbrica, in modo e maniera che qua sotto davvero non lo viene più a cercare nessuno. Tutti così diventeremo, dice Fausto, come questo, tutti così. Questi sono operai che rimangono a lavorare in fabbrica, i disgraziati, quelli che hanno perso un occhio, una orecchia, una mano, il cervello, come sto deficiente, una gamba, come me. Questi sono gli operai che rimangono in fabbrica, sa? Mica come ai tempi di mio nonno, dice Fausto. Perché, cara madre, Fausto, nel cervello suo è convinto che la fabbrica è divisa in tre grandi età. La prima età della fabbrica, dice Fausto, l'età dei giganti, di mio nonno, dove ci stavano certi operai che mica richiamavano coi nomi dei santi. No, erano alti 50 metri questi operai qua e si chiamavano Ferriero, Guerriero, Baconino. Giuro, cara madre, c'era gente che si chiamava Baconino. C'era una donna, l'ho conosciuta io, si chiamava Vera Spiritanova, nome di donna, capito? Erano giganti, ma poi, cara madre, dice Fausto, che arrivò alla seconda età della fabbrica, l'età dell'aristocrazia operaia, dove c'erano operai che pure che erano comunisti, anarchici, socialisti, sindacalizzati, manco il fascismo li cacciava via dalla fabbrica perché si erano resi indispensabili per la produzione. Ma cara madre, poi è finita la guerra, finita il fascismo, eppure sto operai che manco il fascismo l'aveva cacciati via, magari erano i primi che venivano cacciati via dopo la fine della guerra, no? E quando non si riusciva a licenziarli, sto operai li mettevano, capite, a fare la guardia ai secchi della Monnezza, così sto operai se ne andavano via da soli, no? Piuttosto che stare a guardare la Monnezza alla fabbrica, andavano a guardare gratis la Monnezza di casa loro, per dire, capito? Perché mo è arrivata la terza età della fabbrica, dice Fausto, l'età dei disgraziati, dove in fabbrica rimangono solamente quelli che hanno perso un occhio, una orecchia, quelli che sono scarti, quelli che hanno dato qualcosa alla fabbrica e la fabbrica non si può permettere di cacciarli via. Gente come questo qua, sto deficiente che ha perso il cervello, o io, dice Fausto, io che sono mancante di una gamba, a me non mi caccia via manco Gesù Cristo e la Madonna, a te però, dice Fausto, a te domani ti cacciano via. Tu stai bene, non ti manca niente. Mi dice, tagliate un dito, mi dice. Mi fa, dice, sei destro o sinistro? Dico, so, di qua, dico, so destro. Beh, mi fa, dice, tagliate un dito dalla mano sinistra, no? Stai pure di mano, non devi chiedere manco un favore a nessuno, tu tagli da solo. Mi dice, l'anulare, tagliate l'anulare. Tanto l'anulare è un dito che non serve a niente. Serve, davvero? Non so mica serve. La gente sa manco come si chiama sto dito. Mignolo lo so, ricordano tutti i pollici, figuriamoci. Indice, medio, anulare, non so ricorda nessuno. È un dito che non serve. Che ci fai con l'anulare, per dire? Ci fai qualche cosa di particolare? Sì, chi suona la chitarra e il pianoforte, magari su artisti sono 3 su 1000. Che ci fai? L'anulare è un dito inutile, tagliatelo. È il dito del matrimonio. Se te lo tagli, lo regali alla fabbrica, è come che te la sposi la fabbrica. Non te licenzia più nessuno, manco Gesù Cristo e la Madonna. Cara madre, come Fausto disse, io l'anulare mio sinistro me lo tagliai. Un dolore. Un dito che non sapevo manco come si chiamava. Per dire, come se ti dicono è morto un cugino che tu non sapevi manco, e ti scoppi a piangere, ma non sapevi manco se era biondo, rosso, operato, grasso, magro. Un dolore. Cara madre, Un dolore quando alzai gli occhi dal mio dolore, vidi che ormai il carrello elevatore in fabbrica lì all'alto forno era già caricato. Sul carrello ci sta tutto il materiale che poi va nella fusione, no? Rottami, de metallo, carbone, e in mezzo al carbone, cara madre, sarà il dolore, ma a me mi parve di vedere che in mezzo al carbone ci stasse Benito, lo scemo che stava ancora lì, che scavava, che cercava l'oro, il tesoro del Crondighi. Cara madre, io volevo urlare, strillare, chiamare qualcuno per questo povero deficiente, ma già urlavo per il dolore mio, c'avevo mica una bocca di scorta per urlare per questo poveraccio, no? Ma mi parve, cara madre, rivedere che in mezzo al carbone, vicino a sto poveraccio, ci stasse pure la madre Assunta, bella, una Madonna in volto di pietra scolpito, sul carrello elevatore sarebbe stata buttata dentro a 2000 gradi insieme a tutto il materiale di fusione. Mi parve, cara madre, mi parve di vederci che ci stasse pure Pari di Pietrasanta, il padrone, quello che si voleva affacciare alla finestra e dire mio, tutta quanta roba mia, che però poi la terra c'era avuta solamente quando era morto l'aristocratico nobiliare, che difatti, cara madre, mi parve di vederci che là in mezzo sul materiale di fusione ci stasse pure l'aristocratico nobiliare, che scemo e puzzolente chiamo scemo, è l'unico che si è sposata poi ad Assunta, che insieme a loro mi parve, cara madre, di vederci sul carrello elevatore che ci stasse pure Fausto il nonno, l'idealista, quello morto con la faccia nel buco, e pure suo figlio, quello che morì dopo aver ammazzato a Giovanni Berta, e con loro c'era pure Giovanni Berta, che di faccia io non lo riconobbi, però c'aveva le mani tagliate, sicuro che era lui. Insieme a loro c'era pure il dito mio anulare della mano sinistra. Tutto dal carrello elevatore venne svuotato nella campana dell'alto forno. Quando il materiale dell'alto forno finisce nel carico dentro la campana, si aziona la turbina rotativa che incomincia a girare, fa un fischio enorme, altissimo, più di un flauto, che, cara madre, il capoforno ascolta questo fischio, ascolta, risponde, sa che quella è la qualità della marcia, e quando fischia così la qualità della marcia è buona. Quando il materiale di carico precipita dentro l'alto forno, perché tutto precipita, no? È una legge, si chiama la gravità, che tutto casca per terra. Quando sta gravità del materiale di carico casca per terra, si va ad incontrare col vento a 2000 gradi, 3000 gradi delle turbo soffianti. Era macchina Skoda, sta dentro la fabbrica nostra, una cosa cecoslovacca, la fanno i compagni in Cecoslovacchia. Beh, quando si incontra a 3000 gradi tutto si incendia. A 3000 gradi, cara madre, niente rimane spento, tutto si accende, e allora la turbina rotativa incomincia a girare velocemente, produce un fischio che sale, che scende, che sale, che scende, che sale, che scende, che sale, che scende, che pare quasi che è il forno che chiama il capoforno ascolta, risponde, si avvicina. Io, cara madre, giuro, vidi il mio capoforno Fausto avvicinarsi alla base del forno, fare un buco nel refrattario col cannello d'ossigeno e far defluire fuori l'acciaio dall'alto forno. L'acciaio è brillante, è liquido, ma tu non lo vedi che è liquido, è solamente luce che esce. Io giuro, vidi il mio capoforno Fausto in equilibrio su una gamba sola far decorrere e scorrere via l'acciaio lungo la rigola con una lunga asta di metallo. Quando l'ultimo acciaio cadde, finì nelle enormi siviere, vennero sputati fuori dalla base dell'alto forno pezzi di cocca incandescente, una polvere elettrica che rimane per aria e una grigia che si appiccica alla faccia e si chiama la grafite, cara madre, che è quella delle matite, ma quella si appiccica la faccia e ci vuole un'ora per toglierla via. Allora, cara madre, dalla base del forno esce solamente aria calda. Allora i fonditori riattappano il buco con il refrattario, si siedono, mangiano, bevono e preparano per la prossima colata. Era l'alba del 17 marzo 1949, le 6 di mattina, quando io e Fausto siamo usciti dall'alto forno. Era un reparto l'alto forno, noi dovevamo andare verso l'uscita, ma però dai cancelli non si riusciva a uscire perché gli operai stavano tutti appoggiati ai cancelli, spingevano sui cancelli, i cancelli non si aprivano. Fausto mi ha detto che stavano così perché c'era una manifestazione contro l'adesione dell'Italia al Patto Atlantico dell'America. Questo mi ha detto Fausto, non so che, ma insomma me l'ha detto lui. Io però c'avevo il dolore mio, del dito mio, mi facevo un dolore, mi doveva portare all'ospedale e invece non c'era possibilità di uscire fuori dalla fabbrica, andammo allo spogliatoio che è l'ultimo preciso punto che dal di dentro della fabbrica si vede il di fuori della fabbrica. Io stavo sdraiato per terra, Fausto guardava al di fuori della fabbrica. Fausto dice che gli operai stavano appoggiati i cancelli perché le camionette delle guardie correvano avanti e indietro alla maniera anglo-americana. Oh, così parla Fausto, a sta maniera. Vorrebbe dire che queste camionette correvano avanti e indietro, che correvano forti, che non si fermavano, che la gente non riusciva manco a attraversare la strada. Tant'è vero, cara madre, che Fausto mi disse che pure un operaio amico suo che si chiamava Trastulli Luigi, che ci aveva pure appena partorito una figlia, non lui, insomma la moglie, aveva partorito sta figlia, che Trastulli Luigi aveva preso la bicicletta, se ne stava per andare a casa da sta moglie e da sta figlia, che manco Trastulli Luigi, tanto pacifico e tranquillo, riuscì a attraversare la strada, perché, cara madre, Fausto diceva, affacciato alla finestra dello spogliatoio della fabbrica, che dice che queste camionette correvano forte avanti e indietro, solo una si fermò, e dice Fausto che dalla camionetta discese un vice commissario, che io non mi ricordo come si chiama, cara madre, però Fausto si ricorda sempre e aggiunge sempre carogna di questo vice commissario. E questo vice carogna dice che discese dalla camionetta a parlare agli operai come per dire state buoni, tornate tutti in fabbrica. Ma cara madre, dice Fausto, che come poteva sto vice carogna del commissario parlare a centinaia di operai quando non c'era manco un megafono, un microfono, niente, solamente con la bocca sua, quando per legge di pubblica sicurezza per fare una cosa del genere devi pure far suonare la tromba. Tant'è vero, cara madre, che a un certo punto sulle camionette gli operai videro che le guardie che correvano sulle camionette erano armate, tenevano le armi in vista. E cara madre, quello era il 1949, la guerra era appena finita, mica la vedevamo in televisione a quel tempo, la guerra, la gente se la ricordava. Quando gli operai videro le armi capirono che o la guerra non era mai finita o stava a ricominciare quel giorno stesso. Cara madre, tant'è vero che a un certo punto, cara madre, Fausto, affacciato alla finestra, disse che una camionetta era arrivata addosso a un operaio che chiamavasi Scatolini, questo operaio, che rimase per terra con entrambe le gambe spezzate, che quando gli altri operai andarono su Scatolini per portare aiuto, dalla medesima camionetta che gli aveva appena spezzato le gambe partirono i gas lacrimogeni all'indirizzo di Scatolini e dell'operaio che stavano sopra. Che, cara madre, Fausto dice che le guardie sparano i gas lacrimogeni solamente quando la folla si rende pericolosa per le guardie. Ma se la folla si vorrà rendere pericolosa per le guardie, mica andava su un operaio con le gambe spezzate, no, sarebbe andato contro il vice commissario Carogna, che stava da solo in mezzo alla folla, vice commissario che difatti poi testimoniò al processo che stava da solo in mezzo alla folla, ma quando accadde il fatto poi se ne ritornò verso la sua camionetta da solo, senza che neanche al suo indirizzo arrivassero bestemmie, parolacce o improperi, cara madre. E il vice Carogna poi, dice Fausto, che rimontò sopra la camionetta, che, cara madre, Fausto poi quando si ricorda bene, dice che gli pare che poi il vice commissario rimontò sulla camionetta, la camionetta partì, e dice Fausto che gli sembra che fu proprio da quella camionetta che partirono i colpi che uccisero l'operaio Luigi Trastulli. Non so dire, posso dire, io ho visto il carabiniere dentro la Jeep, ecco, questa è la cosa che mi rimane impressa, è la visione del carabiniere nella Jeep che si è girato, cioè i capelli neri ho visto, questo qua sì, ho visto il carabiniere con la pistola in mano. Però sono confuso perché è un momento di grande confusione. Ho visto che lui si è girato con la pistola in mano, l'ha puntata, ha sparato a bruciapelo praticamente. Poi intorno a me ho sentito alle mie spalle qualcuno che gritava no, e poi l'ho visto. Si è creato un vuoto nella piazza e subito dopo sono avanzati i carabinieri e hanno circondato il corpo. Era la mattina del 17 marzo 1949. Quelli, cara madre, erano gli anni che il ministro degli interni di quel tempo si chiamava Mario Scelba. Ce ne sono stati dei ministri in Italia. Più ministri che anni sono passati da quel tempo. Però sto Mario Scelba qualcuno se lo ricorda ancora. Si calcola che negli anni 48, 49 e 50, negli scontri di piazza, morirono almeno una sessantina di persone, quasi una guerra. Si calcola che nell'anno 1960, e non mi sono sbagliato, cara madre, erano passati 15 anni dalla fine della guerra, nel 60, a contarli, su quasi 400 tra prefetti e viceprefetti che stavano in Italia, solamente due di numero non erano stati nelle istituzioni fasciste. Oh, Dio, cara madre, sono numeri, contano niente, dico però qualcosa, due su 400. Comunque quello era il 1949, il ministro degli interni era uno che si chiamava Mario Scelba. A gente se lo ricordano ancora a quel tempo, cara madre, mo la gente si ricorda più di niente, però a quel tempo si cantava pure una canzonetta su sto Scelba, peride per dire, no? Che diceva, poi viene Mario Scelba, ministro dell'interno, che fa sparare sul popolo, poi prega il Padre Eterno. Poi viene Mario Scelba, c'era Scelba, ministro dell'interno, fa sparare sul popolo e poi prega il Padre. Avrete cantato pure voi questa canzone, cara madre? Era una cosa che rimaneva impressa, mica perché uno la pensava una maniera o al contrario. E che ti rimaneva impresso, scopri per terra, lavi i piatti e canti la canzone di Mario Scelba, cara madre. Negli anni 50 ci rincorse tutto, c'era la cenere. Ci toccò scappare nei portoni perché con le camionette ci investivano. Hanno dato le manganellate, la testa sanguinava all'operai che andarono all'ospedale, e ce ne sono stati tanti negli anni 50, perché questo corteo era il tempo di Scelba, che si cantava, che si diceva, e poi viene Mario Scelba, ministro dell'interno, fa sparare sul popolo e poi prega il Padre Eterno. Poi l'andavano a pregare, no? E lo fanno ancora, tanto loro a pregarsi purificano la coscienza. Thank you. E così, cara madre, in fabbrica, poi dopo la disgrazia, e grazie alla disgrazia, ci ho lavorato altri 30 anni. Poi sono andato in pensione, oh, mica tutti licenziano, qualcuno arriva pure a andare in pensione. Io andai in pensione. Eppure, cara madre, quel primo giorno che ero entrato a lavorare in fabbrica, la sera del 16 marzo del 1949, per me era un'emozione pensare a entrare in fabbrica, che io pensavo che gli operai erano veramente alti 50 metri, no? Perché uno la vede, la fabbrica da fuori, dici tanto grande è la fabbrica, tanto grande sarà l'operaio che ci lavora dentro. Invece poi uno entra dentro e vede che le cose sono differenti e poi non sa più raccontare. Vedete, cara madre, ci ho messo 50 anni per dirle questa cosa. Cara madre, la fabbrica era importante anche per quelli che non ci lavoravano in fabbrica. Per esempio per noi, io mi ricordo da ragazzino, la fabbrica vicino a casa nostra, no? Faceva telefoni, poi non era manco una gran fabbrica. Mi ricordo che sta fabbrica suonavano le sirene, e da noi ci stava manca la chiesa, si sentivano i campane, le sirene erano l'unica cosa per sapere l'ora. Mi ricordo che certe sirene erano importanti anche per me, le 8 meno 10 di mattina, preavviso d'entrata degli impiegati in fabbrica, per me era importante, perché io andavo a scuola, alle elementari era come per dire, quando sentivo quella sirena, come per dire sbrigare, sbrigare, vai a scuola che arrivi tardi. Poi arrivavo a scuola alla succursale della Felice Socciarelli a Piazza Castrolibero in Borgata Morena da noi. Cara madre, entravi là dentro e ti imparavano che ci stavano anche altre sirene, le sirene di Ulisse che attiravano i marinai con voci incantatrici, pure le sirene della fabbrica attiravano gli operai, ma un bel giorno persero tutto il loro incanto e gli operai, quelli che parlavano, che discorrevano, che bruciavano i copertoni per la strada, un bel giorno, cara madre, scomparvero tutti e non li vide più nessuno. Cara madre, l'unico operaio che dopo tutti i prepensionamenti, i scivoli, i licenziamenti, le casse integrazioni, l'unico che ha continuato a parlare, a discorrere per la strada, è Fausto. Fausto cammina per strada e parla. Se siede su una panchina, parla. Sta appoggiato a un albero e parla. Ma parla da solo. Tant'è vero che io gli ho detto, dico, Fausto, e che madonna, dico, ma con chi parli quando parli da solo? Lui mi ha detto che a me lo poteva dire, si poteva fidare. Fausto dice, la prima volta mi è successo che era quel mese, quello d'autunno, no? Quello quando si cambia l'ora all'orologio, ora legale, locale, serale, solare, come si chiama, no? Dice Fausto, io non ci faccio mai pazienza, non mi ricordo mai cambia stura, ci pensa sempre mia moglie, santa donna. Solo che quella volta là, dice Fausto, mia moglie stava in clinica, in operazione da niente, però non cambiò l'ora all'orologio. Passa il sabato, la domenica, arriva il lunedì mattina, dice Fausto, spengo la sveglia, vado al lavoro, arrivo in fabbrica e non c'è nessuno. Porca miseria, dico, lo vedi, devo cambiare l'ora all'orologio. Non c'è mia moglie, sono come un ragazzino da solo. Vabbè, pensò Fausto, ormai sono arrivato in fabbrica, rimango qua, aspetterò un'ora da solo. Dice Fausto, dice, mi sono seduto sulla panchina vicino al perastro, l'albero delle preservatiche. Sono stato lì, seduto, 5 minuti, a un certo punto ho sentito una voce che diceva, Fausto. Dico, chi è che mi chiama? Dico, ci sto solamente io. Dico, è qualcun altro che ha fatto la fregnaccia che è arrivato un'ora prima. Ma non ci stava nessuno. Passano ancora 5-10 minuti, di nuovo la voce ripete, Fausto. Ah, dico, ma chi è che mi chiama? Dico, ma io sto diventando scemo, sente le voci. Ci stava nessuno, dico. A un certo punto, 10 minuti ancora, un quarto d'ora, 20 minuti, di nuovo la voce ripete, oh, Fausto, ma che sei sordo? Ah, dico io, dico, ma che è, dico, stamattina? Fresca, dico, ma che so, sento le voci, dico, ma ci sto solamente io, dice Fausto, io e l'albero. Dico, ma chi è che parla? Ma che è l'albero che parla? E la voce. Ma Fausto, ma sei scemo, ma che mo' gli alberi parlano? Chi ti parla non è l'albero, è la sua ombra. Una volta era un'ombra piccola, un alberetto, un fruscello che ogni poco di vento andava a destra e a sinistra. Ma sono diventata l'ombra lunga, un albero forte, resistente, che non lo sradica manco più il vento e la tempesta. Una volta facevo fatica ad arrivare allo scalino, al marciapiede, mo ho raggiunto il centro del piazzale di cemento armato, il tombino de ferro zunito che mi pareva lontano come l'Australia, l'America. Le ombre parlano, dice Fausto, parlano, bisogna solamente saperle ascoltare. Per mia esperienza, dice Fausto, esistono due tipologie di ombre, le ombre delle cose e le ombre delle persone, due cose differenti, proprio sparse, che non c'è la cabeza l'una con l'altra. Le ombre delle persone, per esempio, sono felici di essere l'ombra di una persona. Quando camminano davanti alla persona, pare quasi che cercano dove la persona metterà il piede, su una buca, un sasso, un pezzo di carta, la morbida terra. Quando camminano dietro la persona, le ombre, invece, cercano dove la persona ha lasciato l'impronta e ci passano sopra con una certa curiosa nostalgia. Queste sono le ombre delle persone, che amano le persone. È un amore serio, quasi una religione, una fede, sincera. Questo amore che le ombre delle persone hanno per la persona, nelle ombre delle cose diventa odio, rabbia e risentimento. Sai perché? Perché le ombre delle cose odiano le cose, perché delle cose invidiano la loro immobilità. Si capisce? Tu prendi una bottiglia, la metti su un tavolo, la bottiglia si afferma, non la tocca nessuno, ma l'ombra della bottiglia è condannata a girare attorno. Ogni volta che accendi una luce si sposta, spegni la lampadina si sposta, apri una finestra, chiudi una finestra, cambia il sole e quella si sposta come una bestia alla catena. Poi spegni la luce e l'ombra della bottiglia si va a perdere nell'ombra generale della casa. Poi riaccendi la luce, apri una porta, una finestra e l'ombra della bottiglia sbatte sotto un cucchiaio, una forchetta, un bicchiere, un coltello. Capito? Perché? Per una lampadina? Le ombre delle cose odiano le cose, perché delle cose invidiano la loro immobilità. Ma la più tragica delle ombre è l'ombra della fabbrica. La fabbrica è immensa, piantata in mezzo al piazzale di cemento armato. L'ombra della fabbrica gira attorno alla fabbrica, compie una specie di mezzo giro, sempre lo stesso, da sempre. Che io dica, oh, ci avrà scavato la fossa, dico, a forza di passare avanti e indietro, come i cartoni animati, di quello che pensa, cammina e scava a buca, dico. Si lascia dietro una scia leggera che pare la bava delle lumache, ma è straziante come sangue di infiniti morti. Io, dice Fausto, io la sento l'ombra della fabbrica che urla, strilla, bestemmia. L'ombra della fabbrica prega la terra di spaccarsi, perché se si spaccherebbe la terra crollerebbe la fabbrica. Allora l'ombra della fabbrica non sarebbe più l'ombra di una cosa ferma, immobile, bensì diventerebbe l'ombra di una cosa che si muove, che esplode, che si spacca in mille pezzi, e anche lei come ombra si aprirebbe in un'infinità di miriade di ombre, per tornare poi ad essere alla fine l'ombra di una cosa, di una maceria. Ma però sai, per un attimo l'orgoglio pure per un'ombra. Le ombre parlano, dice Fausto, parlano, bisogna solamente saperle ascoltare. Tutte le ombre parlano, dice Fausto. E io le sento parlare tra di loro, parlano a me. E come la lingua, dice Fausto. Sai, dice Fausto, io sono stato in Germania. I tedeschi, quando li senti parlare, pare che dicono sfrinche, sfrunche, sfranche, che sono tutte bestemmie, no? E invece no, poi dopo stai in Germania, impari la lingua e capisci che pure in Germania la parola significa. E io, le ombre parlano, è come una lingua germania, come una parola straniera. Tutte le ombre parlano, a me tutte mi parlano, tutte. Tranne la mia proprio non mi considera. Io mi sono fatto pure un'idea, dice Fausto. Io credo che l'ombra mia non voleva essere l'ombra di una persona, bensì l'ombra di una cosa. Me ne accorgo, sai perché? Perché certe volte sto fermo, mi vado per spostare e sento come che l'ombra mia ha piantato i diti per terra che non mi devo muovere. Ma che devo fare? Dico, sono mica una pietra, un telefono, dico io. Io poi mi rimetto così come stavo, ma intanto devo fare delle cose per casa, no? Certe volte ci provo, sto fermo, a un certo punto sento quasi che l'ombra mia parla, poi io mi distraggo. Uno mi chiama, ho respiro troppo profondo e già mi sono mosso. E io non la sento l'ombra mia, ma credo che mi odia per quella distrazione, per quel respiro troppo profondo. Ma una volta, dice Fausto, un giorno che non ci avrò più niente da fare, niente da perdere, mi voglio mettere in un posto, l'ultimo, finale, definitivo. Magari sulla panchina, vicino al perastro, all'albero delle prede selvatiche. Mi siedo lì, sulla panchina, fermo, immobile, con le mani sulle ginocchia, senza più muovere niente, manco respirare, manco i diti dentro le scarpe. Fermo come una cosa, un oggetto. Allora l'ombra mia davvero penserà di essere diventata l'ombra di una cosa. Se io mi sto fermo, dice Fausto, vedrai che poi l'ombra mia rifiata. Se mi sto fermo, vedrai che anche l'ombra mia mi parla. È così che Ramato in fabbrica ci ho lavorato 30 anni. Poi io, c'è una fine a tutto, la pensione è una fine. Io sono uscito dalla fabbrica, però in fabbrica ci sono tornato molte altre volte, perché certe volte morivano gli operai, no? Compagni che tu riconoscevi, faceva piacere di andare a dare l'ultimo estremo saluto. Per esempio, cara madre, a un certo punto questi operai incominciarono a scrivere sul giornale come erano morti, perché gli operai da noi mica morivano così, per mancanza di fiato, come si diceva una volta, no? Per avvelenamento, di metilchetone, caduta da carroponte, schiacciamento, tumori. Cominciarono a parlarne sui giornali. Me ne ricordo uno, cara madre, era il 1978, questo qui stava su un carroponte. A un certo punto forse è rimasto incastrato, ha detto il medico, no? Che probabilmente ha pure chiamato quelli che stavano sotto, ma cara madre, in fabbrica non si sente niente, un macello, un rumore, un frastuono, la gente si vanno che i cuffie, gli tappi alle orecchie. Figuriamo se questo avrà pure chiamato, ma chi l'ha sentito? Dice che il carro ponte gli è passato sopra 3 o 4 volte. Si sono accorti che era morto quando cadevano i pezzi dall'alto. E questo non finì sui giornali, perché dicevo, cara madre, che era il 78, avevano sequestrato il presidente Moro. I giornali parlavano d'altro che non dei morti in fabbrica. Poi, cara madre, la fabbrica l'hanno chiusa, smantellata una volta per tutte. Dice che certi pezzi della fabbrica l'hanno proprio buttati via, chissà in dove. Altri pezzi invece dice che li abbiamo venduti ai paesi del terzo mondo, cara madre, paesi poveri, no? Che tu dici, ma come? Roba che era vecchia per noi, per loro va bene lo stesso, no? Un par di scarpe vecchie, per dire, no? Roba che per te è monnezza, per altri è oro. Cara madre, dice che l'alto forno l'hanno smontato e l'hanno venduto ai cinesi. Era grosso l'alto forno da noi. Dico, i cinesi quanti sono? Un miliardo. Dico, piccoli, c'entrano tutti là dentro. Accendi l'alto forno, una fiammata, fine del problema cinese. Capisci? Per dire, no? Per trovare le soluzioni, cara madre. Quando l'hanno smontata la fabbrica, noi a operai, come i ragazzini deficienti, andavamo lì a piangere questa fabbrica che veniva smontata, che era finita tutta. Cara madre, io certe volte ci torno pure lì alla fabbrica a vedere, era tutta smontata, non c'è rimasto niente, ormai è macerie di pietra vecchia, sembra i fori, il Colosseo, non c'è rimasto niente. Pure io, cara madre, quando me la vado a vedere la fabbrica smontata, me la ricordo tutta lo stesso, me la guardo e mi pare che ci sta ancora, dico io, trasparente, no? Come che l'hanno fatto trasparente? E mi ricordo tutto, i reparti, T1, T2, T3, R4, R5, mi ricordo, e l'alti forni, come no? Mi ricordo perfettamente il montaggio, l'assemblaggio, la verniciatura, come era prima, con tutta quell'acqua per terra, poi con le cappe aspiratrici, come l'hanno fatta dopo, si rispiriava tutto quel veleno, mi ricordo la mensa che faceva schifo, nessuno ci andava a mangiare, mi ricordo l'edicola da baccheria di rimpetto alla fabbrica, il pozzo che stava dietro, mi ricordo perfino i forni al mercurio, pure tutti scassati, che li ho visti una volta sola nella mia vita, la prima volta che entrai a lavorare in fabbrica. Mi ricordo ancora, cara madre, che stavamo là sotto con tutto quel buio, quei topi che ci camminavano a centimetro, io pensavo, ecco là, i topi ci saltano addosso e ci divorano tutti. In quel momento pensavo sta cosa. Ma poi negli anni, sarà che poi sono invecchiato, mi è venuto da pensare tutta un'altra cosa. Ho pensato, guarda un po', che i topi ci saltavano addosso, ci divoravano a tutti e risparmiavano solo a me. Beh, sarà che uno si rincoglionisce, però sta cosa l'ho pensata. Per dire, no, e mica lo so se è peggio essere uno che muore insieme a tanti altri o essere l'unico che si salva, il superstite di una catastrofe, il sopravvissuto di un'apocalisse. Così, cara madre, ho scritto una lettera al giorno per tanti anni, per più di 50 anni. Voi sempre mi dicevate, scrivi, io sempre avevo scritto una lettera al giorno per tanti anni. Solo una volta non vi ho scritto, che difatti voi mi diceste, come mai che non hai scritto, di tante lettere che mi hai scritto, perché questa non me l'hai scritta? Che io vi dissi che non potevo, per via della disgrazia. Stavo all'ospedale con la disgrazia, non potevo stare lì a perdere tempo con le parole scritte. Che però voi mi diceste, prima o poi me la scriverai sta lettera, mica che mo adesso mi lasci senza una lettera, nel mentre che tanto mi hai scritto tutta sta collezione di lettere. Che io vi dissi che sì, che ve l'avrei scritta sta lettera, ma non subito. Che per scrivere, cara madre, certe cose uno o subito le scrive, o gli ci vuole una vita intera per trovare le parole giuste per dire. E adesso, cara madre, sta lettera ve l'ho scritta. Ma però fate conto che è l'ultima. Anche perché quando uno ci mette tanti anni per trovare le parole, una volta che le trova e le scrive, poi dopo gli pare che non c'ha più niente di buono da dire, no? Ma ci vorrebbero altri 50 anni per scrivere un'altra lettera come questa. Ma mi penso che né io né voi ci figuriamo di campare tanto. Così vi chiedo, per quanto possibile, in finale di questa lettera, di salutare molto affettuosamente il babbo e tutti quanti che vi dimanda di me.